Le nostre grandi diplomazie in tutti questi anni non sono riusciti, per esempio, a ottenere di importare il culatello di Zibello. A me interessava quello. Secondo me sarà più facile ottenere di esportare il culatello di Zibello con Obama che non con Romney. La zanzara. Gattone, ma se ti piace chiamatemi Oscar. Sono il telegattone, ma tu lo sai, vero Parenzo, chi è il vero vincitore delle primarie televisive, del confronto televisivo di ieri sera tra i candidati del centro-sinistra? Sì, lo sai chi è? Sì, Oscar Giannetto. Bravo, bravo. Ma di Roberto Reggi, che invece è il coordinatore della sua campagna elettorale, che ha l'intenzione di aprirsi a Oscar Giannetto, che per chi non... Giannino, scusate, che per chi non ricorderà è il giornalista che ha sostenuto, come tutti i gatti, vivo sopra i tetti, appoggiato all'antenna centrale. A parte che la signorina Bramante parlava un po' come Vendola, no? Lunghissima, lunghissima. E poi, diciamo la verità, le cose, il confronto ha spostato pochissimo. L'unico momento di larità, l'unico momento di divertimento, eccetera, è Oscar Giannetto. Questi battali in su. Giannino, da ora sarò Giannetto. Saluti da Oscar Giannetto d'ora in poi, a domani. Mi piace, chiamatemi Oscar. In realtà non si capisce bene, glielo chiederemo più avanti nel corso della serata, se Giannino l'abbia presa bene o male. Perché da una parte, da una parte io ero con lui ieri sera, da una parte la cosa un po' chiaramente lo stuzzica perché viene citato, eccetera, eccetera, ha un suo movimento. Ma perché dovrebbe averla presa male, scusa? Aspetta, però a un certo punto Giannetto vi saluta, ma twittate meno. Ascolta, ascolta. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Lo zoo comunale, quello in cui i giornalisti e anche chi guarda le primarie tutti twittano, non fanno altro che twittare. Quindi da oggi in poi mi tocca salutarvi come Oscar Giannetto. Ma vi pare? Sì, perché mi ha chiamato Oscar Giannetto, quella che ha fatto la domanda a Renzi, tutti su Twitter, risposta come se io avessi la cosa Giannetto. Sì, Giannetto, un mondo di Giannetti, meglio Giannetti che Giannettini, per chi ha una certa età si ricorderà. Comunque va bene, Giannetto vi saluta, ma twittate meno, leggete più libri, dico io. Vabbè, magari chi twitta legge pure i libri, eh? Non è mica, non è mica detto. Vabbè, fermare il declino, che ho detto un'altra cosa? Ho detto giusto fermare il declino o ho sbagliato? No, mi sembra di sì, mi sembra di aver detto giusto, no? Sgarbi sostiene che a Berlusconi, con cui avrebbe visto il confronto televisivo di ieri sera, a Berlusconi è piaciuto, sono piaciuti Renzi e Puppato, non Bersani. Senti, chi è piaciuto a Berlusconi? Allora, è piaciuto probabilmente Renzi, diciamo, alla fine, e anche la Puppato, che è più televisivo, sì, dei cittadini. Gli ha però fatto pena il capo, cioè ha detto, vedi, Bersani, quello che si identificava come in Bersani, cioè chi è il capo ha una diminuzio ad andare lì da legare, perché lui mai andrebbe da capo insieme ad altre quattro persone a confrontarsi, mai, come tutti i capi. Diciamo pazzesca. Che è il padrino di Grillo, insomma, quindi avrebbe fatto un po' di casino, nel senso che però di fatto non avrebbe accettato, perché il vero capo parla da solo. Ora Bersani lo ha visto, guardava quasi con pece, è un bravo signore, dice delle cose anche interessanti, però è lì stretto, ecco, questo è l'unico commento. Quindi è stata una serata abbastanza divertente, del tutto insolito. In collegamento dal torpedone da Siena a Roma, David Parenzo, qui da Milano, Giuseppe Cruciani, popolo della zanzara, ascoltate adesso che cosa Zoro, il mitico Bianchi, che dice saluto il compagno Oscar Giannetto. Intanto saluto il compagno Oscar Giannetto, l'eroe della giustizia di questo dibattito. Più affermato che con me viene premiato. E poi il mitico Zoro fa un'osservazione assolutamente ironica, ma nello stesso tempo centrata. giusta, tutti vogliono i matrimoni gay, più o meno, le unioni, eccetera, eccetera, tra i candidati del centrosinistra. Poi citano tutti i papi, preti, una cosa pazzesca, cioè quando hanno chiesto a Bersani, a tutti quanti, chi mettereste nel vostro Pantheon, domande assurde, c'è cioè, il vostro Pantheon, io odio la parola Pantheon, in ogni caso, ma io non ho nessun Pantheon, cioè nel massimo delle statue, lo sai che ho delle statue, no? Sai che ho delle statue che lucido ogni tanto, poi le cambio, i busti, tra cui anche quello di Marchionne. Io ne ho visto uno allucinante di Marchionne con tutto sto maglioncino a collo alto, una cosa allucinante. Ma che c'entra? Il maglioncino è si vede poco in un busto, come fai ad averlo visto? No, perché gli hai messo tu il maglioncino. No, gli ho fatto fare da questo scultore che mi ha fatto il busto di Marchionne. Hai fatto il busto di Marchionne e poi hai comprato un maglione in casa. No, e non dire stupidaggini. Nel busto invece del collo c'è il maglione, perché si vede un piccolo risvolto nel materiale. È una cosa agghiacciante. Ma è stupendo. Vale un sacco di soldi innanzitutto, stai zitto, ormai vale un sacco di soldi. Lo potrei mettere all'asta. All'asta il busto di Marchionne di casa mia. Fermato che con me viene Zoro, tutti vogliono i matrimoni gay e poi mi citano i papi. Tutti vogliono i matrimoni gay e Bersani mi cita il Papa e Vendola mi cita Cardinal Martini, per carità, poi no, i papi non sono tutti uguali, eppure i cardinali, però insomma, ecco. Ma c'ha ragione Zoro, ha ragione Zoro, ma mi pare possibile che a un certo punto sarà stato un caso, sarà stata una strategia, non lo so. Però a un certo punto gli chiedo chi mettereste voi? Sentiamo Vendola il Cardinal Martini, è vero che Vendola è cattolico e tutto, però insomma, all'antenna centrale. Io controllo. Un uomo che molto più di tanti politici è riuscito a indagare temi delicatissimi come la fecondazione assistita, il testamento biologico, i diritti delle coppie di fatto, con una delicatezza e un rispetto straordinario. È un uomo che ci manca molto, il cardinale Carlo Maria Martini. E poi l'altro chi è? Renzi. No, Renzi. Chi è che ha citato? Bersani, che Renzi? Su, Bersani. Papa Giovanni. Perché, poi devo spiegare perché però. Perché riusciva a cambiare le cose rassicurando. Il mio Puppato rivela oggi la signora Puppato veneta, una dei partecipanti a questo dibattito di ieri. Dice Renzi era teleguidato, stava lì col cellulare a ricevere messaggi sulle risposte, nessuno di noi aveva il telefonino, non era proibito, però devo dire, rispetto al fatto che era vicino a me e riceveva costantemente messaggi nel suo telefonino, che forse è anche un po' teleguidato questo ragazzo, no? Perché nessuno di noi, come dire, si era portato un telefono e riceveva messaggi in corso. Ah, aveva l'iPhone a portata di mano. Sì, messaggiava. Come tutti i gatti, vivo sopra i tetti, appoggiato all'antenna centrale, io controllo. Beh, abbiamo già un ospite collegato, però Micaela Biancofiore ha colpito ancora. Sai, Parenzo, ha colpito ancora la signora Biancofiore. L'onorevole White Flower, vuoi dire? Ha colpito ancora. Berlusconi è ancora il mio presidente del Consiglio. Una mossa intelligente da parte del Presidente del Consiglio, per me ancora attualmente in carica, in quanto è ancora l'unico Presidente eletto democraticamente dagli italiani. A lei Monti non lo considera il Presidente del Consiglio? Ma lo considero un commissario dell'Italia, purtroppo. Se vi piace. Hai capito? Un commissario dell'Italia. No, va tutto bene, però uno che può vivere dissociato dalla vita, dalla realtà, la realtà è questa. Ogni giorno ci vorrebbe una piccola Biancofiore, ogni giorno. Allora, c'è il signor Andrea Di Pietro, che è consigliere comunale del PDL a Vigevano, che ha scritto: Vendola è viscido, consigliere comunale del PDL a Vigevano, Vendola è viscido quanto la vasellina che usa. Hai capito? Signor Di Pietro, che venga cacciato all'istante il signor Di Pietro a Vigevano. A Vigevano, che è in provincia di Milano, credo, zona del presidente della provincia di Milano, Guido Podestà. Buonasera. Buonasera a voi. Come stai, Peter Sellers? Introduciamolo così, su, Peter Sellers, l'ho ribattezzato così. Introduciamolo in questo modo. L'invidia è una brutta bestia. Ma chi piacerebbe essere Peter Sellers? A chi? A noi? Direi. Come no? A voglia, ma infatti mica è un'offesa. Anche a me, perché avrei 30 kg meno, ma insomma. Ma guardi che poi non è detto che alla sua età magari Peter Sellers... Qual età? No, quanti anni ha lei? Ma di quale età parliamo? Quanti anni ha lei, signor Podestà? Ma ne ho 30 più 35 di esperienza. Beh, magari a 65 anni anche il signor Peter Sellers pesava come lei. Quanto pesa, scusi, signor Podestà? Lasciamo perdere. Siamo ai 100, no? Non siamo ai 100. Siamo più su, va. Più su dei 100. Ma non può fare un po' di storia. Ma scusi, ma perché non segue Berlusconi che ha fatto questa dieta che ci ha detto l'altro giorno Zangrillo? È una brillante proposta la sua. Guardi, che pare che chiami il professor Zangrillo, conosce il professor Zangrillo, sì. Come no? Chiami il professor Zangrillo, Berlusconi è andato in Kenya, non è che bisogna andare per forza in Kenya al villaggio di Briatore, che so che per lei, per le sue tasche, magari non è proprio adatto come posto. Oppure si faccia invitare da Berlusconi, non so in che rapporti sia, comunque, o da Briatore. C'è la dieta, com'era la dieta dissociata? No, ma adesso senza andare da Briatore riusciamo a diminuire. Come fa? Anche lei si mette a dieta? Mia moglie mi ci obbliga. Sì, che dieta seguirà? Scusi, curiosa questa. Guardi, c'è, posso dirlo? Sì, una dieta veramente efficace, l'ho usata due volte. Sì. È proteica. Sì. Diciamo che si mangia un alimento quasi liberamente a volontà, prosciutto piuttosto che uova, piuttosto sì. che carne. Sì. E in 15 giorni lei perde 6-7 kg. 6-7 kg, ma ha un nome questa dieta o no? No, non lo so, il nome non lo conosco. Ma chi ha prescritto? Un medico? Moglie, no, prescritto nessuno. Sua moglie? Consigliato e io, poi mia moglie si è convinta e io ho obbedito. Ho capito, ma c'è una tabella? Ma guarda. No, che tabella, se lei c'è la tabella non la segue, mai. Lei. Se viceversa è libero, ma deve scindere ovviamente sì. l'assunzione dei cibi, riesce ad avere, veramente lo dico a tutti coloro. Ma lei fa come gli pare allora, cioè, c'è però una linea, qual è la linea? Cioè, da qualcuno gliel'avrà suggerita questa cosa? No. Me l'hanno indicata, l'ho applicata, sono contento e che adesso ne ho ancora bisogno. Comunque facciamo così, ve la mando sì. per iscritto, oh, poi voi ottimo. La provate, ma devo dire che David che conosco non ha bisogno di far dieta. Ma nessuno di noi ha bisogno, beh oddio, David no. adesso si sta mettendo a posto, infatti si è iscritto in palestra. Si è iscritto sì, in palestra sì. da poco. È un po' palestrato negli ultimi tempi. Beh, un po' questa pancetta, non si sente tanto bene, ha bisogno di rinvigorire il tono muscolare, come dire, in termini. Ma tu non ti senti bene, scusa, io mi sento benissimo. No, me l'hai detto l'altro giorno, sono qui, è una casa di vetro, possiamo dire tutto. Ma quale casa di vetro? È una ma casa di vetro, sei fisicamente in una situazione abbastanza precaria e sei andato apposta in palestra per rimetterti in sesto, ma non c'è niente di male, è una cosa normalissima. No, ma guarda, sono venuto a trovarti 3 giorni fa quando ti sei operato di emorroidi, ti ho trovato che stavi benissimo, io invece tornando in palestra. Vabbè, fine. Comunque, adesso poi ci darà la dieta che sta seguendo il presidente Podestà. Scusi, ma questo consigliere di Vigevano che ha scritto questa cosa su Vendola, lo conosce lei? No, non lo conosco, mi sembra una frase talmente infelice. Beh, insomma, qualche cosa bisognerà fare, non lei che non c'entra niente, ma insomma, magari più tardi lo cerchiamo, ma così chiariamo. Scusi un attimo, lei fa il tifo per Maroni o per Albertini? Glielo dico così chiaramente, subito. Guardi, se noi andiamo, parlo del centrodestra, sì. se noi andiamo divisi perdiamo, ripetiamo la Sicilia. Cioè, se non andate no. con la Lega? No, se noi andiamo divisi... Beh, divisi che perdiamo. Vuol dire? Divisi cioè. Vuol dire una lista Albertini, una lista Maroni. Allora, il gioco è lo stesso di una lista Miciche e una lista Musumeci. Ho capito, no? ma Maroni non ha nessuna intenzione di rinunciare, dunque è Albertini che secondo lei dovrebbe rinunciare? Ma vediamo, magari viene fuori una soluzione concordata. Cioè, quale potrebbe essere? No, non lo so. Ma secondo lei, quale potrebbe essere? Potrebbe essere anche un terzo nome oppure si confluisce su uno dei due. La cosa importante è andare insieme. Anche ho capito, ma... Perché noi abbiamo una sì. situazione in Lombardia abbastanza chiara con i numeri, no? Sì. Quindi si deve trovare la soluzione, a mio modo di vedere si può trovare. Ma Maroni è un buon candidato secondo lei? Maroni è un buon candidato, evidentemente, come lo sono, come lo è Albertini, come... Però se lei dovesse Marzoni, puntare sul nome, altri... lei dovesse puntare sul nome, che magari ha, in questo momento ha più chance, Maroni o Albertini? Me lo dica chiaramente, senza ormai tanto qui non si può fare no, diplomatici. Guardi, io credo che bisogna trovare un nome che leghi tutte queste forze e magari anche coloro che nell'alleanza con il PD non si ritrovano e poi vedremo il risultato delle primarie. Non ho capito ma niente, vedrà che ci saranno dei bei rivolgimenti. È con noi Guido Podestà, presidente della provincia di Milano. Abbiamo detto già due stupidaggini, non Podestà, il sottoscritto e forse Parenzo. No, la prima è che vigevano in provincia di Milano invece in provincia di Pavia, come è evidente. Beh, perché non mi ha corretto, presidente? Non mi permetterei mai. Per una volta c'è la possibilità di darmi una bella conoscenza da solo. Una bella bacchettata, c'è la possibilità di darmi, ignorante, in provincia di Pavia. Devo dire che sarà al confine, forse mi salvo per questo, forse, non lo so. Beh, ma è tutto molto milanocentrico dal punto di vista viario, storicamente. Per cui gravita più su Milano. Poi un'altra cosa che non mi ricordo, e vabbè, poi me lo ricorderò. Vabbè, però, non abbiamo capito bene questa cosa di Maroni e Albertini, noi però, Parenzo, vero? Ho capito perfettamente. Cioè, il PDL sta convergendo su Maroni, queste sono le mie fonti. Il PDL va su Maroni, sì. Non so che cosa dirà, se ci sarà un direttivo, come si dice, una riunione di tutti i boss. Ecco, questo voglio capire. Qualora ci fosse una riunione di tutti i grandi capi della Lombardia del PDL, qual sarà l'espressione, la posizione di Podestà? Cioè, dovrà dire Albertini fai un passo indietro, oppure no a Maroni, cioè, o no a Maroni, qualcosa dirà, ma guardi, David, io ho già dichiarato, stimando Albertini, che se pensa di andare senza la Lega, noi andiamo divisi e andiamo a perdere. Allora bisogna essere chiari, uno ha giusto, cioè Albertini programma. Non può andare senza la Lega. Ma chiunque. Però la Lega a Maroni, siamo in un cul-de-sac. Cioè andiamo incontro a una ripetizione di quello che è avvenuto. Però scusi Podestà, allora prego. Albertini, che non vuole essere candidato del PDL, secondo lei è una mezza follia o no? Cioè in fin dei conti lascia il PDL oppure non può dire sono candidato ma non dal PDL, non ma è un no, po' no, guardi, Albertini si sta candidando come lista propria, lista civica, nessuno glielo vieta, ma è del PDL però. Nessuno glielo vieta, il PDL probabilmente prende strade diverse. Allora uscisse dal PDL se è così. Se vuole fare una lista o meno, sua. Ma non è quello. Il discorso vero è: ti candidi per che cosa? Ti candidi perché proponi un programma ai cittadini per governare meglio la Lombardia, giusto? Sì. Allora lo fai per vincere, perché se lo fai per perdere, vabbè, non ne vale la pena, sinceramente. Allora, se lo fai per vincere perché sei convinto degli argomenti migliori del tuo programma, sì. No? Allora lo fai, ma cerchi di aggregare le forze che ti possano portare a vincere. Scusi, lei tra Maroni è quello che fino adesso è mancato. Lei tra Maroni e Albertini candidato, Albertini, con mezzo PDL che magari va con una gran parte del PDL che va con Maroni, chi vota lei? Con una parte del PDL che va con Maroni, votiamo Maroni. Lei vota Maroni. Quindi Albertini è una specie di Michiché praticamente. Albertini sei come Michiché. Albertini nel momento rischia cui di fare Michiché. Rischia di fare Michiché, ma nel momento in cui si con tutto il rispetto per Albertini, no, per Michiché, certo, per tutti, no, per carità, ma nel momento in cui Albertini accetta, comprende che bisogna trovare una sintesi dalle forze che lui chiama espressione del PPE, perfetto, vabbè, alla Lega, allora a quel punto andiamo avanti, se no non andiamo da nessuna ma tanto parte. Questo non è possibile che l'UDC appoggerà Ambrosoli, a quel punto basta. No, attenzione, calma, quale UDC? A me sembra che l'UDC in Lombardia, vabbè, rischi veramente di essere su due posizioni contro. I giochi si fanno complicati. Scusi un attimo, lei comprerebbe mai un maglione da Formigoni? Il formaglione lo comprerebbe? Ma sa cos'è? Sono i gusti di Formigoni che mi lasciano perplesso. Cioè? Io non porto il rosa, il celestino. No, allora e il maglione nero, il maglione nero lui non li ha. Lei è più classico, diciamo, no? Bravo. Ma i maglioni, quel maglione nero, eccetera, è una cosa terribile. No, che maglione nero? Quello suo, io là, che ha messo. Ho un cashmere azzurro che lei, guarda, se lo sogna. Ah, lei ha un cashmere. Favoloso. Quanto costano i cashmere? Sacco di soldi. Guardi, mi è stato regalato purtroppo da troppi anni, un po' sformato, però mi creda, un azzurro chic, favoloso. Altro che i golf di Formigoni. No, quelli no, lui ha la capacità di portare abiti che io neanche di notte sono capace di portare. Ma nessuno. Scusi, ma lei non le indossa, piuttosto va in giro nudo piuttosto che indossare le camicie di Formigoni? Sarebbe veramente un esempio di uomo straordinario. Quale dice lei, andare in giro nudo? Meglio creda, quello che indossare. Mi creda sulla parola. In che senso, scusi? C'è tutto il perché. Ha un bel petto, c'è, diciamo. Tutto il quid. Ah, lei ha tutto il quid, diciamo. Lei da quel punto di vista non ha nulla da invidiare ai modelli, no? No, ma taglie forti, ma i modelli ci sono. I modelli ci sono. Beh, insomma, sei contento di saperlo, Parenzo? Peggio di tutti sono quelle camicie a fiori. Scusi, però adesso vogliamo chiarire questa cosa qua, incredibile. Podestà è l'unico che si è dimesso, poi riprenderemo alle 19:15, è l'unico che si è dimesso via Twitter, ma alla fine l'unico che ci ha rimesso è stato il suo portavoce, che si è dovuto dimettere, se ne è dovuto andare, il signor Radic. Beh, scusi, è stata una cosa clamorosa. Aspetti, abbia fede, Cruciani. Allora, in realtà di cose devo dire che Radic è una persona che stimo. Ma lo so, ma no, anche noi mestiere. Moltissimo. Però ha fatto una evidente forzatura, no? E io mi sono trovato come una pera nel momento in cui non avevo nessuna intenzione di dimettermi, ma scusi, come ha fatto il suo portavoce? Come ha fatto il suo portavoce a scrivere che si doveva dimettere, però, che si metteva anche dire, lei? Mi sembra una storia trita. Voi siete molto più capaci di vedere la realtà che diviene. No, e guardate avanti. Vittorio, hai il braccio rotto, il tuo autista è ancora in condizioni complicate, anche se per fortuna non rischia la vita. Parenzo, diciamo qualcosa, Vittorio. Litiga, però non sempre. Oggi Vittorio ha fatto questo nuovo epocale scontro col signor Sloan. Ma per questo ti dico. Io dico che uno che ha il braccio rotto, come dicono in Toscana, chetati Vittorio, chetati. Ma sì, ma... Però il dramma che sto vivendo io è un altro, e tanti radioascoltatori che tra poco io incontrerò, perché stasera sarà un grande viaggio popolare nell'Italia disastrata dal maltempo. Dunque, la cronaca è questa. No, ma io scusa, posso fottermene di questa cosa qui, nel tuo viaggio dell'Italia sommersa? Non me ne frega niente. Perché come me ci sono migliaia di automobilisti. Ma non me ne può fregare di meno, ma li abbraccio fortissimo. 5 chilometri di coda. Ma non me ne importa nulla. Quelli che sono bloccati nel traffico. Il vostro bambino, aspetta un attimo, che tiro di allagamento. Se volete, approfittate almeno per fare un bagnetto al vostro bambino, perché c'è tutto allagato. Allora, cosa dovete fare, cari amici bloccati con 35 km di coda? Mettete la zanzara a tutto il volume, scendete la macchina, non spegnetela quando siete in coda, ma lasciate acceso il gas e sgasate di continuo, prendete il bambino e lo appoggiate ai margini della strada. Non si sente più nulla. Capre. Sgarbi contro Sloan, ancora un litigio dalla Parodi. Lui ha dichiarato, John Peter Sloan che non è successo niente, ma che ne sai? Ma tu gli hai raccontato? Io c'ero, sì. Tu hai tutte quelle feste lì? Ma tutte le feste. Vabbè, è normale, però, se l'avessi visto qualcosa. No, non sono le feste, ma conosco quello che capita. Però se poi lui paga, se poi lui. Cioè, ma tu vai a letto con qualcuno ogni tanto. No, aspetta un attimo, vai a letto con qualcuno ogni tanto. Ma amico, vai a letto con qualcuno ogni tanto. Ma amico, vai a letto con qualcuno ogni tanto. Ma io, vai a letto, vai a letto, vai a letto, vai a letto. A un certo punto si appoggiava col braccio rotto sul tavolo, beh, uno spettacolo inaudito. Parenzo, è tornato? Che delirio, certo che sono tornato. Beh, certo che sei tornato, non è proprio così sicuro che tu sia tornato, eh. No, sono da solo con altri due avventori su tutto il pullman. Pensa a te, questa casa, questa azienda che trasporta tre persone in un intero torpedone da Siena a Roma. Staranno sicuramente fallendo. Perché è sicuro, staranno fallendo. Mi dispiace, come si chiama quell'azienda? Vai dall'autista subito. Dall'autista. Non vuole, è nervosissimo, non vuole. È tesissimo perché ci sono 35 km di coda. È tesissimo. I titoli del TG3, poi torniamo con... Aspetta. Ma andiamo avanti fino a mezzanotte, ogni tanto sono qui bloccato nella carlinga. Chi se ne frega? Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Si aggrava il bilancio del maltempo, in Maremma muoiono tre operai Enel per il crollo di un ponte, il cordoglio di Napolitano. Paesi isolati nel Grossetano, A1 e Aurelia bloccate, problemi sulla rete ferroviaria, disagi anche nel Lazio, osservato speciale il Tevere. Ancora non c'è intesa sulla legge elettorale, rinviato il confronto in commissione, Calderoli propone un premio di maggioranza variabile. Le primarie del centro-sinistra, nel dibattito su Sky tra i 5 candidati, programmi, alleanze, Bersani, scelta giusta, in TV la prova che possiamo governare. Arrestato Vincenzo Maruccio, ex capogruppo alla Regione Lazio dell'IDV, si sarebbe appropriato di 1 milione d'euro, soldi spesi anche al videopoker. Patroni griffi nella pubblica amministrazione, 4.500 esuberi, legge di stabilità più tutele per esodati, detrazione per figli a carico. Tensione nel Sulcis, i ministri Passera e Barca partecipano ad un vertice, scontri tra operai dell'Alcoa e forze dell'ordine. Il Senato vota il carcere per i giornalisti, passa con 131 voti un emendamento appoggiato solo da Lega ed Affini. Allora, 10 parlamentari, 10 sembra, hanno lasciato il PDL, tra cui Pecorella, l'amico Pecorella, 10 parlamentari, 10 deputati, da quello che risulta, alcuni erano nomi scontati, però c'è l'avvocato Pecorella, storico avvocato, prima di Berlusconi, eccetera, eccetera, hanno lasciato il PDL per aderire a un gruppo, se si formerà, che avrà come nome Italia, insomma, vanno verso il centro, verso Montezemolo, verso Casini, non lo so. Italia, cioè fanno un gruppo anche loro? Ma sembra, così dicono le indiscrezioni. Cioè a pochi mesi dalla fine della legislatura questi fanno pure un gruppo, quindi prendono pure altri soldi per costituire il gruppo. Così sembra, cosa vuoi che ti dica? Così sembra. Ma così sembra, perché? Poi c'è altro casino per Di Pietro, altri casini se volete al plurale per Di Pietro. Perché insomma hanno arrestato Maruccio, lo sai, no? Sai che hanno arrestato il signor Maruccio, che pare che si inguattava i soldi nostri per andare a giocare alle slot machine, sembra, eh? Se fregava i soldi pure tuoi, quelli che hai nel portafoglio, se li fregava, ti toglieva i quattrini e se li andava a giocare alle slot machine. Hai capito? Avrebbe fatto 100-120 mila euro di buffi. Poteva giocare alla roulotte, alla roulette. Nero vince, rosso perde. Io non so cosa giocava, stasera lo scopriremo. Però, rubava i soldi anche tuoi, sembra. Prendeva i soldi tuoi, quelli che hai in tasca, quelli che voi che ci ascoltate, che magari siete fermi in questo inferno che c'è nel centro Italia. In cui è impantanato pure Parenzo, anche se ironizza su questo, con la gente morta. Aspetta un attimo, aspetta un secondo, fermati. Ho detto, voi che siete fermi lì, sapete che c'è, dovete sapere che c'è qualcuno, che vi ha fregato i soldi, secondo le accuse, vi ha rubato i soldi per andarseli a giocare alle slot machine. Voi ditemi ancora se ci deve essere finanziamento pubblico alla politica, ditemelo voi. Allora, io però voglio sapere dal presidente della provincia di Milano, che è ancora in collegamento con noi, Podestà, dove va stasera a cena, Podestà? Questa sera vado a una cena di milanisti. Sì. Con la presenza di Baresi. Sì. Con la presenza di Maroni. Ah, qui gatta cicova. Che non sia una gatta frettolosa, se no fa i micini ciechi, ve l'ho detto. Gatta cicova, però, Podestà, lei stasera va a cena con Maroni, diciamola tutta. Ma se lei mi invita domani sera a cena e sono tutti milanisti, io vengo con lei. Ma non è che va a cena con Maroni perché è milanista, su, Podestà, va a cena con Maroni. Io vado perché è una cena di milanisti, ma se Maroni mi invita a cena, io sono felice di andarci a cena. Ma sarebbe un ottimo presidente, sarebbe un ottimo. Sì. Invitatemi a cena, basta che. Ma noi non siamo mica di fede milanista. No, noi non siamo milanisti. Io ci vengo. No. Scusi, di che fede siete voi? No, io sono della Lazio e lui non gliene frega niente. Gesù mio. Che bisogna fare? Beh, siamo, vabbè, meglio comunque, di voi siamo messi comunque. Cena di milanisti io sempre. Scusi un attimo, Maroni, mi dica però, io voglio arrivare alla conclusione di questa vicenda perché è veramente una cosa che mi preme. Sarebbe un ottimo presidente della Lombardia, sì, un ottimo presidente Maroni, sì. Ma guardi, capacità di governo le ha sicuramente mostrate. Ce l'ha, okay. La cosa importante, scusi se lo ripeto, ma questa è una cosa seria, è che si abbia la capacità di fare sintesi tra tutte le persone che si ritrovano nel centro-destra. Ho capito, Albertini può fare sintesi o ma meglio Maroni? Nel momento in cui dice no alla Lega, evidentemente è lui che si autoesclude, se no è un candidato eccellente. Cioè, basta decidere le cose, abbiamo capito, decidere tutto per tempo. Se non ci fosse stata questa affermazione di esclusione della Lega, forse Maroni non si sarebbe neanche fatto indicare dalla Lega stessa. Però abbiamo capito tutto, abbiamo capito. Cerchiamo di guardare avanti e andiamo uniti, perché è l'unico abbiamo modo capito. Per non perdere. Scusi, possiamo fare uno slogan? Meno CL alla Regione Lombardia? Lo possiamo dire? Meno Comunione e Liberazione? Ma io mica vi posso impedire di dire quello no, che No, lei, volete. Lei dite, lo potrebbe... Dite, dite, dite, volete dirlo, lo dite. Le piace come slogan? Siete liberi. Le piace come slogan? Meno CL ma Lombardia? Ce n'è anche di meglio, ma perché no, insomma. Senta, ma io non ho capito la storia del quid. Cioè, lei dice, nudo, beh, insomma, parte la pancia, poi c'è un bel quid. No, ma mi sembra che l'unica cosa che le è stata fissa... Io sono malato, sono malato, sono malato, sono malato. Insomma, sono ossessionato dal sesso, che devo fare? È così. Però lei insomma, dice, ho un bel quid, giusto? Questo me lo dico io che me lo deve dire. Ma il quid è grosso, sì. Potente, capito? Parenzo, hai capito? Beh, senta, l'auto è sempre quella là da presidente, quella super da presidente rispetto agli altri, quella su cui la incastrammo noi qui alla Zanzara. No, sì. Non è incastrammo, noi abbiamo un contratto fino a fine anno e quel contratto lo devo rispettare. Ma è sempre quella. Sempre quella è però l'auto. Sì, ma guardate che io ne ho una bellissima, sì. Antichissima, che ha quasi 350.000 chilometri. Sì. No? Quante macchine ha lei? No, io c'ho questa, non c'ho 350.000 euro, che macchina è? È un Audi. Sempre Audi. Non mi piace fare la pubblicità sempre per le macchine tedesche. Lei quella si è scelto però, pure la provincia. Cosa ci dice? Pure quella ha scelto la provincia però, sempre Audi la scelta. No, l'Audi, mi spiace dirlo, ma credo che sia una delle macchine più affidabili e che richiedono meno assistenza. Meglio quella della Fiat, sarebbe, diciamo. Sarebbe sicuramente positivo poter dire lo stesso magari di qualche auto della Fiat, di casa nostra. Della Fiat, una sola cioè, di casa nostra. Meglio l'Audi della Fiat. Se lei pensa che non c'è più praticamente l'Alfa Romeo. Comunque. Cioè, si è perso un sacco in questa operazione Fiat magna tutta. Comunque, vabbè, se l'auto è sempre quella. Ma lei dopo la provincia, come si vede? In Parlamento, sì. Caro Podestà, in Parlamento, dai, su. Ma si può dire. Che non credo. No? Sa che non credo. No? L'ho fatto 15 anni felici a Bruxelles, a Strasburgo, interessanti, belli. Allora... Ma guardiamo da un'altra parte. Dove, cioè? Cioè non dove? So, dove? Suggerisca lei. Che ne so. Che ne so io. Vabbè, che ne so. Uno dice, no, già, è stato a Strasburgo, già è stato a Strasburgo e a Bruxelles. Ha fatto la provincia, adesso Roma. Ministro. No, grazie. Lasciamo le rogne agli altri, grazie. A presto. Stia bene. Saluti. Grazie. Francesco dalla provincia di Roma. Buonasera. Dica. Allora, Cruciani, mi riferisco all'ultima intervista di ieri sera, prima che finisse la trasmissione. Vada. Alla madama Polanco, mi sembra. Beh, bellissima si chiama Polanco, anche perché per radio non si vede, basta andare su internet. Sì. Però, sì. Dico, ma questa gente, ma che cazzo viene a fare in Italia se poi si lamenta? Adesso io questo francamente non lo so, perché dice che 2500 euro sono pochi, questo? Ecco, che capito, se la passa male, io adesso manderò un vaglia di 10 euro, rinuncio a due osservazione. Rinuncerò a due pacchetti di sigarette, vediamo un po' come è una giusta osservazione. Cioè lei si è incazzato come una bestia quando ha sentito insieme a Polanco che ha detto 2500 euro sono poche, questa è la realtà. Oh, bravo. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me. Il vincitore del confronto sulle primarie del centrosinistra, in realtà, come sapete, ha un solo nome e un solo cognome. Oscar è il nome, Giannetto è il cognome. Ti potrei schiacciare. Dove sei, ma dove sei? Ti stacco il fungiglione. Ha l'intenzione di aprirsi a Oscar Giannetto, che per chi Giannino. Non... Giannino, scusate. Se ti sento zanzarare, provaci e smetti di volare. Saluti da Oscar Giannetto d'ora in poi, a domani. Allora Francesco, perché lei si è arrabbiato per questa storia della Polanco che dice di guadagnare 2500 euro pagati da Berlusconi e dice che è poco? Vabbè, comunque ma poi un'altra ma perché cosa... si è arrabbiato? Scusi, perché si è arbiatto? Berlusconi gli può dare 2500 allora, euro? Allora, Babbo Natale e Berlusconi è meno vabbè, male ho capito, c'è chi è più fortunato e chi non è fortunato, ma insomma è la vita, sì, però, è la vita. Sì, la signora, però non so se è informata che ci stanno per esempio tre ospedali in fallimento, che ci stanno... 1500 persone a spasso, no? E lei si sta lamentando che, dico, ma io dico, a parte che c'ha una banca in mezzo alle gambe e potrebbe anche aprire lo sportello ogni tanto, scusi. No, scusi un attimo, com'è la storia? Com'è? Ha una banca in mezzo alle gambe, allora? Potrebbe anche aprire lo sportello. Beh, lo apre lo sportello, dipende da chi, dipende da chi bussa. Vabbè, sono cazzi suoi. No, ma dipende da chi bussa, caro Francesco. Vabbè. E poi ma in che senso potrebbe aprire lo sportello? Scusi, al primo venuto, dice lei? Ma io, che primo e secondo? Quando uno va in banca, che fa? C'ha la fila e basta, no? Ecco, tutto qua. Vabbè. Senza un'altra cosa, abbia pazienza. Sì. Ma è sposata questa signora? Sì, si è sposata da poco, credo. No? Ah, ecco, ma il marito... O si vuole sposare? Ma il marito è scappato, che fa? Non collabora al menage familiare? In che senso, scusi? Ma che gli frega? In che senso? Ma che gli frega a lei, scusi, Francesco? Ma come che me ne frega? Prendi i soldi da Babbo Natale? Come sarebbe così? Ma ho capito, ma prendi i soldi da Babbo Natale? Ma non sono soldi pubblici, dipende da papà. Atti, chi è sta voce da mezza checca? Chi è che parla? Parenzo. Senta, utile idiota. Utile idiota. Ma ha si fatta la cacca stamattina? Ma senti un po', l'hai fatta la cacca stamattina? Va a cagare allora, vai, cammina. Ma stia calmo. Lavati i capelli nella tazza del bagno. Ciao, bello, ciao. Ciao. Lavati i capelli nella tazza del bagno, così almeno si Roberto dalla provincia di Roma, state calmo, ma guarda, su. Ma che state calmo, sto cretino. Ma stai calmo, ti agiti per così poco. Vieni sotto casa mia che ti aspetto. Ma stai tranquillo, addirittura, dai, su, e prendi la patente invece di stare in mezzo all'Italia. Con il torpedone. Il PDL è finito, deve nascere una cosa nuova. Noi non siamo dei topi che scappano da una nave che affonda, ma la scelta di andarsene va fatta. Ho capito, però state lasciando una nave che affonda, questa è la verità. Magari non siete topi, ma la nave che affonda la state lasciando, eh? Non c'è dubbio su questo. Roberto, provincia di Roma. Buonasera. Sì, ho telefonato per tutt'altra cosa, però poi continuamente date spunto per nuove riflessioni. Vada. Ma la nave che affonda, ma esiste una soluzione a questa nave che affonda oppure sono sempre le solite chiacchiere per arrivare a sedere su queste famose poltrone che producono un reddito maggiore che per molti imprenditori? Non ho capito nulla, scusi. Dicevo, prendendo spunto dall'ultima... Un attimo. Pronto? Oscar, eccoci qui. Eccoci qua. Eccoci, Oscar Giannetto, Parenzo. Come stai? Parenzo, abbracciamolo forte. Giannetto. Netto, sì, Giannetto. Va bene. Adesso se volete vi canto la canzoncina. Giannetto, dove lo metto non si sa. Com'è Giannetto, dove lo metto non si sa. Non lo so, pare che ci sia una canzoncina che gira e Giannetto dove lo metto non si sa, però insomma è un pochino questa lunga coda del vero vincitore di ieri sera, non esageriamo, però insomma. Beh, insomma, da una parte è un vantaggio essere citato alle prime del centrodestra, però ti ho visto un po' irritato anche, perché? No, ma che irritato? No, mi sono irritato perché la mia opinione è che se questo è quello che resta con tanta significativa rilevanza del mio confronto tra candidati, vuol dire che il confronto tra candidati deve aver molto deluso, ecco, io lo dico nei confronti dell'elettorato del PD. Questo mi dispiace un pochino per loro, però dall'altra parte se è così vuol dire che effettivamente non tanto bene hanno dato prova questi candidati. Ma no, ma in realtà poi è rimasto su Twitter e su internet, non è che adesso, non credo che nella mente di 1.800.000 persone. Guarda, certo, è stato l'unico momento di ilarità e di divertimento un po', su questo non c'è dubbio però, che c'è Parenzo, che vuoi dire? Non ho capito. No, dico che se vuoi il cambiamento, Giannetto, è il tuo momento. Questo è il punto. Ah, hai già coniato questa cosa. Le rime si sprecano. Ha già coniato la sua rima. Però, insomma, ti ha fatto piacere o no questa cosa? Sì, no, per carità. Ma io poi sono, grazie al cielo, provvisto di sufficiente autoironia per sarà uno scherzo della storia che, come sempre, gli scherzi devono dire profonde verità. Quindi sono destinato per il mio aspetto fisico, per quello che dico, per essere non allineato, a fare anche sorridere, ma questo è un bene. Allora, io vorrei fare una cosa però, Oscar. Facciamo una telefonata in diretta. Chiamiamo questa ragazza, perché siccome ieri si è messa a piangere, poi domani mattina non è in un corteo, può intervenire la tua trasmissione. Adesso la chiamiamo e gli dici, guarda, non è che non me la sono presa, non c'è problema. Assolutamente sì, anzi. Io considero che il fatto che si sia una cosa strepitosamente genuina e sincera, cioè diciamo di fronte alle vecchie facce. Eccola, aspetta. Sperando che risponda poi, perché Ogni tanto, magari. Team, servizi niente, di segreteria telefonica. Poi riproviamo. Senti, Oscar, ma con Montezemolo è finita? Ma no, ma sì, pare che è finita. Come fa? Montezemolo è uno strepitoso personaggio della vita italiana. Tutti quelli che ci hanno avuto a che fare sa che con lui non c'è mai la parola fine. Dunque, alti e bassi anche con te? Ma sì, evidentemente. Fuori dalle linee, un po' irreggimentabile, ma ci sta anche questo. Cioè, devo dire la verità, non sono neanche troppo peso. Cioè, è ancora possibile un'alleanza tra fermare il declino e Italia Futura? Questo è complicato, però mi faccio un'altra domanda. È finita? Aspetta che non sentiamo più niente, perché è in treno, bloccato pure lui. Sono tutti bloccati oggi, Parenzo con l'autobus e Giannino in treno. Ci sei ancora, Oscar? Sì, io ci sono. Eccoci qui. Che stai dicendo? Non è finita, allora? No, è finita, nel senso che qualcosa può avvenire. Io lo auguro anche per loro. Devono costruire una cosa veramente ampia, con le idee chiare, penso che tutto sommato un contributo dovrebbero cercarlo, ecco. Questa è la mia opinione. Non è ancora finita. Non è ancora finita. No, non è. Montezemolo sveglia. Montezemolo sveglia, non so. Metti da parte le cariatidi, non ti alleare con le cariatidi. Ecco, questa è una buona sintesi. Una buona sintesi, non sentiamo niente, però ho sintetizzato io, ho interpretato io Oscar, però mi ha detto di sì, è così, eh. Ma Albertini sì o Albertini no? Albertini sì, si fa abbracciare dai cadaveri, si fa abbracciare dai cadaveri, nel insomma, gli voglio bene, io gli sto dicendo ogni giorno, stai molto attento perché ogni giorno passa. Ma chi è il cadavere da cui si vuole? Per esempio Formigoni, Formigoni è un cadavere da questo punto di vista? Dei Lombardi, io non voglio adesso, però è un giudizio molto secco e credo che soprattutto Ambrosoli dall'altra parte muova molto anche con buone chance, quindi dalla bene sa se la sua iniziativa civica deve andare dritto come una spada solo su questa strada. Dunque nemmeno con Formigoni? Il PD dovrebbe capire e credo che non lo stia capendo perché è troppo spazio. Un profondissimo rinnovamento, cioè ho capito. Totalmente nuovo. Senti un'ultima cosa, perché non si sente, a lui glielo dici però no, ma si sei, dici, ma glielo ho detto, sente, ma lui non è mica un co-conduttore della trasmissione, è un ospite, dunque ha tutto il diritto di essere dove vuole. Sente, ma che c'entra? Sente, oddio mio, ma guarda che sei incredibile. Allora io voglio chiedere una cosa fondamentale a Giannino, però voglio chiedere una cosa fondamentale. Allora, perché c'è una pressante richiesta da parte di un sacco di gente. Se fermare il declino diventa una lista più o meno politica, che tu sia o no candidato, non so se hai cambiato idea su questo. Che sono candidato, giusto, e allora? Che fai alla radio? No, io se sono candidato, io... Non si sente nulla. Se sei candidato? Se non candidato, continuo l'incubio, questo è ovvio. Cioè, se non sei candidato, però ho capito, se tu sei il capo di fermare il declino, che presenta una sua lista, continua la radio lo stesso? Ma come faccio? Quindi il problema è che se non sono candidato, non posso fare giornalista. No, ma questo è chiaro, però voglio dire, è una cosa, che ne so, Grillo fa il capo politico e non è che fa una, diciamo, una trasmissione. Ah, no, ho capito la domanda. Faccio mica il politico che comunica l'alto, no. Cioè, voglio dire, se fermare il declino si presenta alle elezioni, tu puoi continuare a fare la radio? Ma secondo me, se non sono candidato, sì. Ma questo lo deciderà la radio, il gruppo editoriale. Vabbè, ho capito. Va bene, grazie. Oscar Giannino, purtroppo non abbiamo fatto quello che... Oscar Giannetto, però Giannetto saluta, non lo sentiamo e non siamo riusciti a fare quello che volevamo, cioè dire mettere in contatto i due protagonisti della giornata di ieri sera. Diciamo non si sente. Oh, chiamatemi un altro ospite, dai, su. Mirko da Ravenna. Non si sente. Mirko da Ravenna, su. Adesso chiudo. Mirko da Ravenna, Volevo intervenire a proposito del Movimento 5 Stelle. Lei, fino a poco tempo fa, ha trattato a pesci in faccia tutto quello che diceva Grillo. Questo lo dice lei? No, me lo ricordo bene. Addirittura invitò Gaspari, che tirò fuori il discorso del suo incidente. Insomma... tutto quello ma che c'entra? Ho invitato Gaspari che ha detto questa cosa. Ma chi ha detto? Ma questo lo dice lei. Mirko, no, ma che vi ricordate adesso. Chi? Ma che c'avete? Le cose? Ma che vi ricordate chi? Che c'è? La Gestapo? Ma che è la Gestapo? Il Movimento 5 Stelle prende punti. Cominciate tutti e si vede. Ma tutti chi? Ma lei chi è? La Gestapo? Chi è? Ma si vede in televisione perché Tiberi il giornalista di Domenica comincia a dare ragione a Grillo, Mentana ultimamente fa gli strizza l'occhiolino a Grillo, tantissimi altri cominciano a capire che l'Italia... Lei dovrebbe essere contento, Mirko, lei che il fatto che... No, non sono contento. Allora peggio per lei, resti minoranza, resti minoranza. Chi è che voi dovete fare una brutta fine. In che senso avete dobbiamo fare una brutta... In che senso dobbiamo fare... potere, sì, perché siete stati per anni, sì, coloro che hanno disinformato, sì, questo paese, sì, responsabili insieme alla classe politica di questo sfacelo. Dobbiamo fare una brutta fine in che senso, scusi? Ma chi? Che dovete pagare. In dovete che modo? Pagare. In che modo dobbiamo pagare? Anche economicamente, dando soldi indietro a questo paese. No, per esempio, secondo lei, che sono servo del potere, come devo pagare? Con soldi, perché con hanno, soldi, benissimo. Hanno fottuto. E poi, oltre che con i contribuenti, sì, non avete mai parlato, sì, delle leggi che sono state, dei referendum che sono stati fatti in un cassetto. Benissimo, per Mirko, come dobbiamo pagare? Non ho capito, come dobbiamo pagare, caro Mirko? Allora, ci saranno, sì, degli strumenti che verranno messi in atto quando, sì, il Movimento 5 Stelle sarà in grado di poter organizzarsi, visto che il benissimo, il che strumenti? Che strumenti? Protesta, i patiboli, che cosa? Anche di natura giudiziaria. Sì. Verrà fatta una legge ad hoc contro, perché i politici non se ne possono andare via. E benissimo, via, ma che strumenti? Che i tribunali del popolo, aspetta, che cosa? Io non sono un esperto della Allora stia zitto. Se... Ah, sto zitto io. Allora stia zitto. Pagare in che modo? In che modo dovremmo pagare? Vede perché non devono andare in movimenti? Ma in che modo dovremmo pagare? Perché andare in televisione o da voi è come andare in una commissione d'esame dove noi... Ma se lei parla e non sa e non sa quello che dice, ma se lei parla... Ma lei parla e non sa quello che dice, lei parla e non sa quello che dice. Potrebbe essere bocciata, mi fa finire di parlare. Ma io faccio quello, che voglio. Non se ne può stare mai zitto e farmi finire di parlare. Voi non potete dire che ha torto quando dice non devono andare in televisione. Certo che non ci devono andare, perché come andare, ma guardi che l'ho detto anch'io, stia tranquillo no, non siamo tranquilli, perché stia calmo, non c'è arrivare alla fine del mese qui, sì, io ho dei bambini da mandare sì, a scuola, bravo, da bravo, crescere, è un po' nervoso, non ci sono delle strutture idonee, è un po' nervoso, abbiamo delle persone che sono È un po' nervosetto. Mi fa finire di parlare. Lei pensa, lei ha tutti questi problemi? Sì o no? No. Ma perché ha raccontato per vent'anni tutte queste puttanate in televisione? Alla radio. Non sono e democratico. Viene a dire che è fantastico l'intervento di Sgarbi, ma quella è una tristezza disumana. Lei ha qualche problemino, però non è tranquillo. Ma certo che sono devastato mentalmente da questo governo. Beh, su questo, si guardi, si era capito anche ampiamente. Ma lei ride. Sì. Ma lei va avanti con 200.000 euro all'anno. Forse anche di più. Ma io vado avanti con 10-12.000 euro all'anno. Forse anche di più. Ecco. Qual io è il problema? Con 12.000 euro. Qual è il suo e problema? Tutti i cittadini lo devono sapere questo. Che voi cosa? Avete tutti questi soldi perché siete stati pagati da noi. Sì. Perché lei si lamenta. Ma che lei non mi ha mai dato una... Lei non mi ha mai dato un euro, non guardi. Non ci deve essere. No, lei dà i soldi, perché i soldi per fortuna no, per fortuna che no, paga, che vi danno a voi, l'abbiamo finanziato, sono stati finanziati dai cittadini. Guardi, è vero? si fermi un attimo, Mirko, la paga sì o no? Ma quando mai? Sta dicendo ma delle cose. Ma chi è che paga lei allora? Sta dicendo delle cose. Sì o no? Ma sì, certo, ma cosa allora, vuol dire? Sono 24 ore che lo paga i cittadini sì o no? No. No. No. Vabbè, allora arrivederla. No, bravo, arrivederla. Parenzo, che dobbiamo fare? No, in questi casi qui è la famosa punturina, quella che viene citata. È così. Abbiamo con noi il mitologico sindaco di Salerno, De Luca, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Vi vedo tutti agitati. Ma no, le persone si agitano, sono un po' frustrate dalla vita, per carità, dei problemi, e si riversano contro di noi. Siamo qui a prendere pietre, se la ricorda la vecchia canzone? Sento poco, parli più forte. Beh. Se sei buono ti tirano le pietre. Se sei buono ti tirano le pietre. Se sei cattivo ti tirano. Mi sente adesso, De Luca? Mi sente? Sì, sì. Eccoci qui. Il suo vincitore di ieri delle primarie chi è, De Luca? Della televisione. Guardi, sono arrivato a questo livello, diciamo, di pulsione al martirio da vedere pure il dibattito delle primarie. Ah, manco l'ha visto. Io li conosco. Pulsione al martirio. Sono risparmiata. Poi per esempio avevo sentito un ascoltatore che era agitatissimo. Perché non gli fate vedere una registrazione alle primarie? Così lo narcotizzate subito. Lei non l'ha visto il dibattito? No, sinceramente no, ero impegnato, ho visto un po' di resoconti, notiziari, queste cose qui, ma insomma. Ma non le piace a lei questa politica nuova che si confronta, 5 candidati messi lì con le domande, una cosa all'americana, no? Per la prima volta, non, proprio non le piace, eh? Ma se vuole che glielo dico, io no, posso anche confessarmi commosso del nuovo corso, ma a me pare una cosa di un ammosciamento totale. Ho visto, anche perché io teorizzo che di fronte a queste immagini della modernità io mi sento già postmoderno, quindi vado oltre, a me queste camicine bianche, i colli stretti, sottili. Ma lei manco le primarie gli piacciono, mi dica la verità. Lasciamo perdere. No, ma devo dire che sinceramente non mi hanno entusiasmato quando sono state decise. Devo dire però che hanno comunque attivato un po' di gente, un po' di militanti, hanno rianimato un po' il dibattito politico. Certo, non vi aspettate sfracelli, perché non è tempo di sfracelli. Senta una cosa, ma lei chi voterà alle primarie del centro-sinistra? Ormai lo possiamo... Come, scusi? Bersani. Bersani, ormai il dado è tratto, no? Come? E dirà anche di votare Bersani. Sì, sì, sì. Ai suoi, Bersani, diciamo, agli uomini, agli elettori di Vincenzo De Luca. Che cosa dice? Votate Bersani. Guardi, io dico questo, noi abbiamo registrato in questi mesi, in queste settimane, una grande mistificazione. Si è presentata l'elezione per il governo del paese come se fosse l'elezione a un comune. Le elezioni politiche generali comportano necessariamente una coalizione, può piacere o non può piacere, ma se vuoi dare un governo all'Italia hai bisogno di una coalizione, non è l'elezione al comune dove vinci e dai una maggioranza anche per un voto. Ma questo sta dicendo per Renzi? Dunque credo che Bersani possa avere l'equilibrio, la sensibilità per mettere in piedi una coalizione per dare il governo all'Italia. Invece sperando Renzi, ovviamente, che non facciano porcherie con la legge elettorale. E Renzi non sarebbe capace? Ma io credo che abbia avuto un merito Renzi, quello di aver svegliato un gruppo dirigente che era totalmente addormentato, abbia dato una scossa. Dopodiché non mi hanno convinto alcune operazioni tutte di plastica studiate negli studi televisivi. Non ho condiviso quest'onda mediatica che troppo gori e non mi piace la concezione del rinnovamento legata al certificato d'anagrafe, mi pare troppo poco. Troppo gori, eh? Eh sì, perché io trovo trentenni che sono le mezze pippe e li mando a casa. Poi trovo gente che ha qualche anno in più, ma ha creatività, esperienza. Per me il rinnovamento è un'altra cosa, è il legame con i territori, la capacità di governo e la capacità di militanza. Sì, devo dire che trovo trentenni mezze pippe, invece persone magari più adulte, più capaci, eccetera, è vero, Parenzo. No, mi pare che De Luca, caratteristiche delle persone, beh, appunto, non dalla non certificato di nada. Che dici, Parenzo? Non ho capito. De Luca, mi pare che ci stia dicendo una cosa molto chiara, che ieri si è annoiato moltissimo a seguire è uno abituato a altre cose, non è abituato a questi confronti, cioè, non l'ha eccitata, ecco. Io conosco i protagonisti del dibattito, ecco, non voglio banalizzare, quindi me lo sono risparmiato, diciamo, anche perché, ripeto, ero impegnato, però credo che sia emersa comunque un'immagine di pacatezza, di civiltà, almeno questo via datelo. Senta, poi per il resto sembravano un po' qua 5 pinguini, però sembravano 5 pinguini. Ma come 5? No, vabbè, una pinguina c'era anche. Beh, no, 5 pinguini, tra cui una pinguina, certo. Scusi un attimo, ma il sigaro poi, Bersani, ha seguito il suo consiglio, l'ha buttato? Sì o no? No, insiste, come dice Totò, e insiste, l'ho trovato a Milano ancora con questo maledetto sigaro in mano, ma vede lei, lui è la negazione della comunicazione politica, non c'è niente da fare, bisogna rassegnarsi, è un uomo a misura dei Turtelen. Ovviamente, in un momento come questo in Italia a me basta che ci sia una persona competente, capace e che sia perlomeno genuina, ecco, non finta, mi basta questo. Lo sa che una delle sue assistenti, la portavoce della campagna delle primarie, lo ha paragonato a Cary Grant, perché dice che da giovane era molto bello, somiglia a Cary Grant. Qualcuno ha messo insieme le due foto e effettivamente qualche somiglianza c'è, o no? A Cary Grant chi è? Bersani? Da giovane, sì. E vabbè, fra poco gli vede spuntare pure la chioma in testa, il bulbo pirifero che si attiva come le centrali di Amazon. Dai, noi esageriamo. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara, insieme a noi in diretta da Salerno, uno dei nostri sindaci preferiti, caro Parenzo, il sindaco di Salerno, appunto, Vincenzo De Luca, esponente del Partito Democratico, ha detto che voterà Bersani alle primarie e gira voce, De Luca, che lei potrebbe fare, insomma, le piacerebbe fare il ministro in un futuro governo, se mai ci sarà, di Bersani, è vero? Ho già detto caso che la mia principale aspirazione è quella alla buona salute. Qua non si sa qual è la legge elettorale, non si sa qual è il risultato, già pensiamo ai governi e al ministro. No, però ci sia una svolta nazionale, questo sì. Però le piacerebbe fare il ministro? Mi piacerebbe? Fare il ministro. Mi piace intanto fare il sindaco, se ovviamente ci mettono in condizione di lavorare. Se dobbiamo continuare così, siamo massacrati come enti locali e come comuni, francamente non vale la pena neanche di lavorare in un comune. D'accordo, questo sì, però se io dovesse... credo che sia assolutamente indispensabile una svolta politica, perché questo governo, che ha dato sicuramente una grande immagine, una grande dignità all'Italia, almeno su tre cose non sta facendo niente. Gli enti locali, un disastro. La sburocratizzazione, un disastro. Lo sviluppo, un disastro. Però il PD lo sostiene questo governo, non è il suo partito. Come? Lo sostiene il governo, il suo partito, però. Sì, sosteniamo, perché quando un paese arriva con un piede già nel baratro, è chiaro che sei costretto a fare anche scelte obbligate. Però siamo un paese strano che trasforma in ideologismo ogni dibattito. Adesso è emersa quest'altra stupidaggine dell'agenda Monti. Che significa agenda Monti? Quello sono d'accordo con lei. L'agenda Monti è il rispetto dei vincoli, il rifiuto della demagogia, non c'è problema. Ma se l'agenda Monti significa togliere l'aiuto ai malati di sclerosi multipla, qui vuol dire che siamo veramente alla pazzia, è gente fuori del mondo. Cioè, non salva manco un ministro lei? Come? Non salva nemmeno un ministro del governo? C'è il ministro Barca che sta lavorando in maniera eccellente. È quello più vicino a voi. La Fornero? La Fornero deve essere un po' più attenta, perché non si può gettare nella disperazione decine di migliaia di persone che si trovano dalla sera alla mattina senza lavoro e senza pensione. Ma come si fa? Ma come si fa? Per cui una mezza criminale la dipinge una che una... No, non una criminale, so che i tempi sono difficili, anche loro sono obbligati a delle azioni, ma non c'è la sensibilità politica giusta, non c'è proprio la percezione della gente di carne ed ossa, questa è la verità. Deve tornare alla politica, o comunque deve tornare un governo politico? Deve tornare un governo che abbia la conoscenza dell'Italia, del paese, dell'economia reale, delle persone che non ce la fanno più, perché i rischi che corriamo sono davvero pesanti. Perché Monti non ha questa percezione, è troppo professorale, troppo al di sopra di queste cose, non si occupa della gente comune? Sì, e devo dire che mi comincia a infastidire questo atteggiamento professorale. La vita democratica, possiamo dire con grande tranquillità, che fa schifo, è fatta di cose non esaltanti, e tuttavia non c'è niente di meglio. Non è che possiamo avere questa divisione del lavoro fra chi dà le lezioni e chi poi è costretto a guadagnarsi il consenso nei quartieri e nei territori. Se si vuole fare politica, ci si sporchi le mani e si vada a chiedere il consenso, ce lo si guadagni sul campo, dopodiché tutti liberi. Certo. Così no. Senta, Grillo al governo, cosa accadrebbe all'Italia? Accadrebbe che nel giro di 24 ore non si pagano più né gli stipendi né le pensioni, perché se è quella la linea politica sarebbe un grande divertimento per molta gente, anche comprensibile. Io non ho compresi noi, la gente si è rotta le scatole, vorrebbe mandare al diavolo tutti quanti, e tuttavia dobbiamo fare appello alla freddezza, perché su quella linea significa che non piazziamo più neanche un titolo di Stato, e poi significa che non paghiamo né stipendi né pensioni. Subito, in 24 ore? Sì. Cioè niente stipendi pubblici, niente vendita di titoli di Stato, e poi che accadrebbe? Spread? Poi? Spread, poi che accadrebbe? Spread a 1000? Credo spread al 1000, non è che viviamo in un empireo, viviamo in un mercato finanziario. No, dico, globale. Se ci fosse Grillo al governo sarebbe un disastro totale, questo voglio dire, secondo lei. Guardi, ci sono persone di grande ragionevolezza in quel movimento e c'è gente assolutamente sana, pulita, ma se la linea è quella espressa da Grillo, sinceramente va bene per mandare un vaffa al mondo politico, ma non va bene per risolvere i problemi della povera gente. Senta, anche lei ha il punto G che frigge quando va in televisione, a parte che non ce va mai lei, ma comunque o raramente. A me danno un enorme fastidio questi pollai televisivi che servono solo a far esprimere il narcisismo dei conduttori televisivi, questa è la verità. Su questo sono totalmente d'accordo con Grillo. Dunque è giusto che dica ai suoi militanti o ai suoi aderenti o a chi si iscrive al Movimento 5 Stelle: non andate in televisione perché quella è la mia linea, giusto? No, io credo che non dobbiamo esagerare, però se l'esigenza che si pone è questa: fatemi un'intervista, fatemi esprimere le mie opinioni in modo che un cittadino possa valutare e decidere, questo mi pare corretto. trovarsi in questi pollai nei quali ogni 10 secondi c'è qualcuno che ti interrompe e non ti fa esprimere un accidente di niente, sì. Serve solo ad avere 5, 6, 7 persone che fanno da clac al conduttore televisivo, francamente mi pare una cosa estremamente noiosa. Dunque, da questo punto del tutto anche Bersani deve andare meno in TV. Dunque, da quel punto di vista, Grillo fa bene a dire ai suoi non andate in televisione. No, è esagerato. Però che ci sia una sollecitazione ad avere un po' dibattiti più seri, vabbè. meno chiacchiere, un po' più di servizio ai cittadini. Cioè quando uno va in una trasmissione, va lì per esprimere le proprie opinioni e farsi giudicare. È stato accusato di maschilismo, De Luca, per questa frase qua. Questo mi sembra esagerato, mica è una frase... un po' di maschilismo, però insomma, è un comico, dai, prendiamola come una battuta anche qui, non facciamo crociate anche sulle battute. Ma se Bersani le offrisse di fare il ministro, se mai dovesse diventare premier, lei lo farebbe o no questo ministro? Lo farebbe, sì. Che mi propone. Però, intanto insomma, qualcuno gli deve proporre di fare il presidente del Consiglio. Vabbè, certo. Ma per come stiamo andando avanti, ho la sensazione che daremo tutto il potere al cabaret. Io mi aspetto Teo Teocoli, presidente del Consiglio, e Joelle Dix, ministro degli esteri, se continua così. Senta, ma Parenzo, sei scomparso, Parenzo, che hai fatto? Non ho capito. No, sono qui, ma siccome la regola della... Senta, però mi dica una cosa, lei che è un decisionista, fa bene o no Marchionne a dire "ma avete imposto 19 assunti e io metto 19 in cassa integrazione"? Mi dica, sia lei l'unico a difendere Marchionne, almeno ieri tutti contro. No, non si può difendere. Marchionne ha posto anche problemi reali, il calo degli investimenti stranieri in Italia, la necessità di superare liturgie parasindacali. Appunto. Ma non si può governare una fabbrica calpestando i lavoratori e i gruppi dirigenti. Questo non esiste, sinceramente non esiste, neanche per la produttività della fabbrica. Senta, è meglio la Salernitana in Serie A o Bersani al governo? Che sceglie tra le due cose? Ma perché vuole essere così cattivo? No, cioè, vabbè, questa sono i nostri giochi, eh? C'è il mio amico Lotito che sta facendo sforzi nella... Appunto, dico. Per portarci alla Serie A. Via, ci arriviamo insieme. No, insieme. No, però se lei dovesse scegliere la Salernità in Serie A o Bersani al governo, tra le due cose, cosa sceglie? No, non si può scegliere. Vabbè, tutti e due, dai. Dai, su, De Luca, me lo deve dire questo qua almeno. Cioè, no. Bersani al governo o la Salernità in Serie A? Il cuore dove la porta? Manco sotto tortura. Ma lei che gli frega? Io lo so che lei sceglie la Salernità, è meglio la Salernità. Che gli frega di Bersani al governo? Lei ha fatto sindaco, ha fatto un sacco di cose, non gliene frega più niente, su. Diciamola così, la Salernità in Serie A è Bersani allenatore, via. Bersani allenatore, ma quello non capisce niente di pallone, capirà di altre cose, ma di pallone proprio no. Allora vuole il disastro della Salernità in Serie A. Se va. No, bene, dobbiamo ancora combattere. Vabbè, non me lo vuole dire. Non credo che sia un grande esperto di pallone. No. Senta, un'ultima cosa. Io a Bersani quando ho seguito queste vicende del generale Petreu. Generale Petreus è un mito. Noi dovremmo fare un comitato per la salvezza e il sostegno di Petreus, sinceramente, perché io dopo che ho visto la fotografia della moglie, ma questo è un sant'uomo, poi ho capito perché se ne andava in giro per le vallate dell'Afghanistan a prendere talebani, ma come si fa? Ma ha ragione, è quello che hanno pensato tutti, diciamola tutta. Cioè lei dice piuttosto ma quello che... è, diciamo la verità, ma non bisogna... se si adottasse in Italia, diciamo il criterio di valutazione della vita pubblica che adottano in America, qua rimangono solo i bambini sotto i 10 anni, è Pierluigi Bersani. Ma non hanno... sono gli unici che si salvano. In che senso, scusi, non ho capito perché. In quel senso lì, va. Hanno tutti amanti, eccetera, più giovani, più belle, più, no? E questa è la realtà. No, si è commosso sto povero Petreus, ma badi un po' la sfortuna di questo generale. Questo se nasceva nei dintorni di Milano, altro che 4 stelle, gli davano 7 stelle con gli alberghi di Dubai. Scusi, sindaco, ma lei quando ha visto le due... Lei lo capisce, quando lei ha visto... certo che lo capisce. Quando ha visto le due foto insieme, no? Le due foto una accanto all'altra, quella che assomiglia a chi? A chi le è venuto in mente con la moglie, la povera moglie, povera, insomma, tra virgolette, naturalmente. Ma non lo so, sinceramente, appena ho sentito la notizia pure io ho detto sto squinternato in generale, ma scherzi a parte, sì, il capo della CIA non ti puoi consentire delle digressioni. Poi quando ho visto la foto, santa, ma come si fa? Sembra, cioè, ricordo un personaggio dei fumetti di qualche anno fa, Matilda, questa con il caschetto, dai, la neucchiaria a fondo di bottiglietta e tira la mossa. Ha chiesto... Questo poi sta a 60 anni, appresso ai talebani, incontra quel pezzo di figliola là, è chiaro che si è commosso, il povero Petrezzi. Facciamogli un monumento. Comunque, facciamo un comitato per la medaglia al valor civile a Petreus. Vai. Assomiglia un po' all'ex moglie, no, la moglie in realtà, non l'ex moglie, a Margherita Hack, per carità, ha detto con tutto rispetto. No. Sì, un po' così, lontanamente. Qualcuno ha detto la Bindi, ma noi non diciamo niente. La Bindi, non credo. No, De Luca, chi assomiglia? La moglie di Petreus. No, diciamo, sì, forse un po' la nipote di Margherita Hack, cioè, la nipote un po' chiara. Senta, ma De Magistris, che vuole fare una lista di arancione accanto a lei, è compatibile col fatto di fare il sindaco di Napoli o no? Guardi, non lo so, dovrebbe chiedere... Secondo lei? Io non gliela faccio. E come non gliela fa? È faticoso fare quello che faccio. Appunto. Ma non è un po' troppo, no? Da sindaco di Napoli voler pure fare il leader di un movimento? Beh, cioè, il sindaco di Napoli è uno dei ruoli più, più pesanti e più delicati delle istituzioni italiane, questa è la verità. Però se lo sentono... Io non gliela faccio. Lei non gliela farebbe. No, ma scusi, no. Prenda a questo punto, prenda come super consulente Petreus a Salerno. E Petreus, ma questo mi rovina, perché si è fatto fregare quella sgallettata là. Non è roba per l'Italia, qui ci vogliono figli e buona donna. Grazie sindaco, a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Quando la zanzarina tormenta la mia noche, pasa en blanco, mañana yo soy estanco, como una muchachita, baila con ritmo bueno, no le importa mucho, si no prendo sueno, no le importa mucho, si no. ¿A qué punto sei con Torpedone, Parenzo? Guarda, sono qui con l'autiere. Aspetta, sì. Scusa, puoi abbassare un attimo la radio, se no mi fa l'effetto Larsen. Ecco, abbiamo anche abbassato la radio. Sì. Sono seduto qui vicino all'autiere e c'è un signore che ha appena fatto pipì sulla destra. Hai visto? C'è un signore che si è accostato con la macchina. Vabbè, è normale, ha fatto pipì per strada, qual è il problema? Non ho capito. Non ho capito, scusa. Ha fatto pipì per strada, qual è il problema? Siamo bloccati. Quanti chilometri da Roma saremo, pensa poco, 140 da Roma, bloccati da 5 chiavi di coda. Ho capito, ma perché sei partito? Uno deve informarsi prima, passami l'autista un attimo, scusa. No, intanto 10-11 febbraio si vota, aspetta, 10-11 febbraio si vota in Lombardia, Lazio e Molise, è stata fissata la data. Allora? No, l'autista dice non può parlare di per policy aziendale, quindi dice io non posso. Ma che, ma l'altra volta parlava. No, ma non è lo stesso, era un altro. Ma certo che è un altro. Però posso dirti solo questo, che l'autista che segue sempre la è del comune di De Luca, cioè di Salerno. Questo lo possiamo dire, almeno questo, no? Ecco, useremo un nome di fantasia, useremo il nome Petreus per l'autista. Petreus, sì, il mitico Petreus. Lo chiameremo Petreus, il nocchiero Petreus. Ecco, della scia, no? Ecco, questo l'ho trovato qui intanto. Ma vai avanti, dai, cretino. Ma chi? Con chi stai parlando? Con chi stai parlando? Un cretino che ha accostato con la macchina e adesso si è ributtato dentro, ha fatto i suoi comodi, la pipì e adesso è ripartito. Ma che deve fare questo poveraccio, scusa? Ma dai, è un cretino, vai sull'autostrada e mi dice a fare la pipì così, cretino. Ma che deve fare, scusa, se gli scappava la pipì, la fa per strada, accosta la macchina? Ma è normale che uno accosta e si vede con tutta la gente che c'è in una sconceria? Dai, se lo vede Giovanardi che gli fa? Ma che c'entra Giovanardi, scusa? No, dico, se per caso Giovanardi fosse nel pullman come e avesse visto che c'è che fa la pipì ai bordi della strada, sicuramente avrei fatto un'interrogazione parlamentare, come minimo. Va bene, Mirko da Ravenna è quel signore di prima, quel Movimento 5 Stelle militante. Lei è iscritto al Movimento, Mirko? Allora, innanzitutto io non sono iscritto perché non voglio far, non voglio portare, in, diciamo così, sì, mettere in gioco il Movimento 5 Stelle. Te credo, cosa, pure proposito... quelli si offenderebbero. No, perché è giusto. Quando uno va a dare un esame e la commissione sa a priori che lo deve bocciare l'esaminato, sa cosa succede? Che anche la persona più preparata del mondo, anche Einstein, anche la persona... Ma di chi sta parlando lei? Di chi, quali sono i soggetti di questo... Il motivo... per il quale Grillo non vuole. Ma che guardi, che io sono d'accordo con Grillo in questo. In questo sono d'accordo. Giornalisti, potete in qualsiasi modo mettere in discussione anche la persona più preparata. Scusi, se Mirko. Voi volete fare quello, no, Mirko, scusi un attimo. Stello, abbia pazienza. Questo deve essere chiaro a tutti i telespettatori, sì, sì, a tutti i radioascoltatori. Scusi, Mirko. Vabbè, lei sta delirando. Un attimo solo, no, un attimo. No, no, loro. Mi dica. Lei ha detto una cosa molto semplice. Primo, che Grillo fa bene, lo penso anch'io, a non mandare i suoi in, ai talk show. Perché vogliono soltanto. Va bene, d'accordo, lasci perdere. Magari le motivazioni. No, è quello il motivo, lo deve dire anche lei. Ma perché mi vuole imporre? Ma perché mi vuole imporre quello che devo dire? Scusi. Perché è questa la certezza che sa, e lei continua a mettere le persone italiane in. A dare agli italiani una informazione di ma perché non ho capito, l'unica informazione vera è quella che dice lei? Ma certo, cosa c'è di ah, beh, certo, dobbiamo non c'è dubbio. Dimostrare certo. Tutte le teorie più strane del mondo qui. Va bene, vabbè, allora per assurdo. Mirko, lei ha detto che dobbiamo pagare. Come dobbiamo teoria. Pagare? Come dobbiamo la pagare mia teoria noi? È che anche il più grande. Come dobbiamo politico. Pagare? Noi, lei ha detto che dobbiamo pagare. In che no, modo? Noi servi? Cosa, come dobbiamo pagare Luca, noi servi? Me lo dica. Luca si deve ricordare che Bersani ha votato in Parlamento la legge criminale della Fornero, il caro Bersani, perché l'hanno votata tutti. Perché non le dice queste cose? Perché non gliel'ha detto lei? Ma che c'entra? Ha detto che è una criminale. Non l'ha detto, non l'ha detto che è una criminale. Pensioni. Ma Bersani, dov'è sì. La votata? La sinistra non ha votato. Ma è lei che la definisce criminale la legge della Fornero? È lei che la definisce criminale? Lui non la definisce criminale. Ma chi l'ha approvata la legge? Ma non lui l'ha approvata anche Bersani. Ma ho capito, ma Bersani non la. Ma Bersani non la considera criminale. Non la considera criminale quella legge. Comunque, su una cosa lei ha ragione. No, ha detto allora, su una cosa lei ha ragione, allora Mirko. Su una cosa dico. Lei ha ragione. Che avendo anche il Partito Democratico approvato tutte le leggi di questo di governo, Monti. Adesso non si può lamentare di Monti. Su questo non c'è dubbio. Su questo ha ragione lei. Io non mi posso no, lamentare. Il Partito Democratico, dico Mirko, il Partito Democratico. Ah, adesso si lamenta di Monti e dice che ci vuole lo sviluppo, ci vogliono altre cose quando ha approvato. Allora io le posso dire una cosa, sì. Visto che noi siamo il movimento delle persone banali, sì. Come dice lui, se va su Grillo dura una settimana. L'Italia ha il 70-80% delle risorse culturali dell'Europa. Sì. Il 40% di quelle o più vabbè, mondiali. Allora è Mirko... il primo paese, il turismo deve essere il core business dell'Italia. Vabbè, ok. Io ho studiato economia. Ha detto una cosa banale, su, che grazie. Non capiscono niente, vanno al governo. Va bene, grazie Mirko. Luciano dalla provincia di Arezzo. Mi liquida, bravo. Ma non la sto liquidando, l'ho tenuta 20 minuti al telefono, la sto liquidando. Che dice Mirko? È impazzito. Luciano, provincia di Arezzo, su. Luciano, dica. Sì, buonasera. Buonasera, dica. Signor Parenzo, signor Cusciani, io sono un vecchio ascoltatore e vi ascolto veramente volentieri. Sì. Vecchio che vuol dire un vecchio, scusi? Vecchio, 63 anni. Beh, mica vecchio lei, mica sono vecchio. Sono uno dei primi, faccio un rappresentante, quindi passo molte ore alla radio. Ma mica vecchio lei, ha 64 anni, mica vecchio. Ma insomma, sono comunque uno che mi ha fatto, la radio mi ha fatto tanto compagnia tutti i giorni. Bene, allora... E allora io vi pregherei se questo di tornare un attimino alle vecchie regole, insomma. Quali sono le vecchie regole, scusi? Di essere tranquillamente normali. Ma noi siamo normali? Sì, non ho dubbi. Un attimo solo. Segreteria telefonica. Allora Luciano, che diceva? Nulla, dicevo questo, di avere i soliti vecchi dialoghi, insomma. Ma che sta facendo quello in sottofondo? Scusi un attimo Luciano, no. Che stai facendo in sottofondo? Io nulla, perché sono qui. No, lei, Parenzo, che sta facendo? Parenzo? Che stai facendo? Stavo mandando un messaggino a una persona. Un messaggino? Con che cosa? Ma perché mi devi rompere le balle? Ti faccio sentire un po' di voci dal ma non ti stavo, ma no, ma non ti stavo rompendo le balle. Tu stai, invece di ascoltare la radio, mandi messaggi. No, sto ascoltando. Allora, ma di che parli? Ma quali messaggi? Intellettuale... No, non mi fare arrabbiare, però senti quello che sta avvenendo. Non fare il cretino che ti mette a mandare i messaggi. Su. C'è una persona che stava dormendo che mi hai fatto svegliare perché ho alzato la voce. Senti, non me ne frega niente. Ascolta la radio senza mandare i messaggi a... C'è un signore... Non mi fare parlare. C'è un signore del Torpedone che ti vuole salutare. Sì, sì. Signor... Antonio. Antonio, Antonio è uno dei più grandi intellettuali della postmodernità, scrive saggi di filosofia, sì, ed è un grande studioso di De Coubertin. Te lo passo, sì, un secondo, sì, te lo passo un secondo. Vabbè, adesso perché devi fare gli affari tuoi, naturalmente. Sei pronto? Dica, dica. Io che devo dire? Non lo so, ma che si trova a fare? In che sta facendo in quel torpedone bloccato? Siamo bloccati. E meno perché male è partito che c'è Parenzo lei? che ci tiene svegli e di buon umore. Scusi, ma perché è partito lei sapendo che c'era questo disastro? Parenzo è un cretino, lo sappiamo, parte lo stesso senza informarsi. Ma lei perché è partito? Vabbè, ma si vede che non è il solo. Ad essere stupido, dice lei, a non informarsi, dice. Perché non si è informato? Perché non si è informato lei? C'era l'autostrada bloccata e è partito lo stesso. Per forza, i filosofi cosa fanno? Scusi, sono attimo, ma lei dove abita? Io abito a Roma. Abita a Roma, e che faceva a Siena? Il filosofo senese. Ma non ci sono i treni, non ci sono altri mezzi, il torpedone dovete prendere, con le autostrade bloccate. Gli autobus. Ma lei non conosce la linea ferroviaria Roma-Siena? No, la conosco, come non la conosco? Va a Siena, va a Firenze piglia... E piglia il treno super veloce e arriva a Roma, altro che autostrada bloccata, casini, certo, piogge. Pure lei ha ragione. No, ma ho ragione, sì, certo che ho ragione. Ho ragione. Lei che fa? Io vorrei capire, signore, come si chiama? Ma non c'è dubbio. Come si chiama lei? Come si chiama lei? Di nome, solo il nome. Solo Ermenegildo. No, vabbè, adesso non ci pigli in giro, su, come si chiama? Come no? Perché Ermenegildo non può essere un nome comune di persone. Sì, può essere, ma mi dica, vabbè, comunque, chi se ne frega come si chiama, che fa di mestiere? Come dice Parenzo, il filosofo. Il filosofo. Anche cioè sono diventato filosofo nel tratto Siena-Roma, per forza di cosa. Perché lei andrà a votare alle primarie del centro-sinistra, andrà a votare o no? Vorrei. Sì, e chi vuole scegliere? Dipende, mi piacerebbe tanto che a me personalmente piace Bersani, sì, ma mi piacerebbe che si liberasse di un po' di zavorre. Beh, un po' l'ha fatto già, sì, ma ancora ce n'ha tanti baffetti che gli girano intorno, che... Questa non è male, no. Non è male. Mi ripassi Parenzo, grazie. Le ripasso Parenzo. Grazie, buona serata. Grazie. Roberto dalla provincia di Roma. È sparito il signore di prima che ci voleva criticare? È sparito. Vabbè, Roberto dalla provincia di Roma. Buonasera. Come sempre dicevo, trovavo spunto per un sacco di argomenti, però alla fine quello che mi preme di più è sentire certe persone che si arrabbiano tantissimo. Un attimo, un attimo solo, scusi. Tutto bloccato, sta dicendo quell'imbecille dall'altra parte del telefono. Andrea Di Pietro? Non ti parlo? Giuseppe Cruciani, Radio 24, salve. Salve. Come va? Qui un attimino. Aspetta un attimo, ti richiamo. Pronto? Pronto, sì, la sento. Come va? Bene, grazie. Ma che ha combinato? Nel senso, si sono... Che ha combinato? Lei è consigliere comunale a Vigevano, cioè, per carità, non è il presidente del consiglio, però ha un ruolo, no? E come fa a scrivere Vendola e Viscido quanto la vasellina che usa? Signor Di Pietro. Ti vergogni? Ma con chi sto parlando? Ne sento, no, senti... Cruciani, Radio 24, c'è anche Parenzo che dice si vergogni. Vabbè, comunque... Lui, nel senso, come mai mi devo vergognare? Non è una bella frase, no? Ma va che, nel senso, non ce l'avevo contro, ma tutti, nel senso, hanno letto e pensano che ce l'ho contro i gay, ma non ce l'ho contro i gay. E contro chi ce l'ha? Ma c'è scritto contro gay lì, no, c'è scritto una cosa contro gay, secondo lei? No, però scusi, quando uno, quando lei ha scritto Vendola e Viscido quanto la vasellina che usa, perché dovrebbe usare la vasellina Vendola? Me lo dica lei, lo sa. No, lo sa lei, l'ha scritto lei, mica l'ho scritto io. Io ho pensato che potevo usarla. Nel senso, lei... Ma poteva usarla per cosa? Scusi, la vasellina? Non lo so, per lavarsi le mani? Ma dai, su, però non pigliamoci in giro. Uno dovrebbe ammettere, ho fatto una brutta battuta, no? Ho scritto una brutta cosa. Era una semplice battuta. Sì, ma era riferito all'omosessualità di Vendola. No! Ma dai, su, ma però... Vendola. Scusi, Di Pietro, però uno... Va bene tutto. Uno può anche perdonare certe cose, però essere presi per il culo, no. Era una battuta a Vendola. Ho capito, ma era una battuta... Come? Non è riferita? Non è riferita al mondo omosessuale. E a che cosa, scusi? A Vendola in quanto omosessuale, perché la vasellina la usa per qualche cosa o no? Ma per cosa si usa la vasellina, scusi? Ma Io non lo so cosa si vuole, se voi lo sapete. No, però Di Pietro, no, guardi che il problema non è, cioè è molto semplice qualche volta, non bisogna impicciarsi con le parole o cercare scuse ridicole. Ma cioè no, lei ha fatto una battuta, ha scritto una cosa sgradevole. Che state sì. facendo un caso su una piccola battuta, ma perché non fate davvero i casi su... sugli sprechi, su non si preoccupi, tutti. Però lasci, lasci no, però ci lasci decidere almeno di che cosa ci dobbiamo occupare noi. Non ci faccia la lezione su ci dobbiamo occupare prima degli sprechi e dopo di lei. Anche un cittadino, voglio che vi occupate anche di quello. Non si preoccupi, c'è gente che se ne occupa. Noi ci occupiamo anche di queste minchiate. Scusi, Di Pietro. Sì, Parenzo, digli qualcosa. No, Di Pietro, voglio dire, abbia almeno il coraggio di dire. Era una battuta chiaramente omofoba, perché voi almeno no, questo lo dica. Non era omofoba. Omofoba, era una battuta riferita alla sua omosessualità, lo dica. No, questo sicuro. A lei appunto. Senta lì. Ma nel senso non era. Scusi, perché ha usato la vasellina? Perché aspetta, scusi. Se Vendola si fosse arrabbiato. Ma Vendola se ne fotterà di questa cosa ma qua. Ma sì, ma credo anche io, perché è proprio una battuta. Ho capito, siccome però questa cosa qua. Se si fosse arrabbiato, nel senso io gli chiedo, ma gli direi anche scusa, ma non era una cosa nel senso. Scusi, perché lei però d'accordo. La volete aumentare nel senso, no, scusi, non siamo noi che la aumentiamo. Questa cosa è già grossa di suo. Ma lei non lo capisce la comunicazione, la comunicazione. Lei fa politica, lo dovrebbe sapere. Io non la voglio impiccare. Io non la voglio impiccare. Sembra che volete impiccare. Questa qui è una... Nel senso, mi tenete d'occhio come nel senso all'epoca il regime comunista che voleva uccidere le persone. Non so. Ma scusi adesso, lei ha detto Vendola è viscido, fin qua vabbè, è una valutazione della personalità di Vendola o delle cose che dice Vendola. Ma perché lei usa la vasellina? No, lei usa la vasellina, la vita privata non so se la usa la vasellina. Perché lei utilizza la parola vasellina, scusi? Perché la utilizza? Perché è una cosa viscida, credo. Dai su, però Di Pietro, non ci pigliamo in giro però. Scusi Di Pietro, perché ci deve prendere per il culo? Ma non mi prendo per il culo, ma adesso... Lei la utilizza perché Vendola è omosessuale, lei ha l'idea malsana? Ha l'idea malsana? No, assolutamente no. Come no? È così, su, lo ammetta. Perché mi devi mettere parole in bocca? Lo confessi. Vendola è viscido quanto la vasellina che usa, perché questa è la frase. Lei l'ha scritto perché Vendola è gay. Lo dica. No, ma perché devo usare? Vabbè, Di Pietro, la richiamo tra un attimo, La richiamo tra un secondo, però risponda, Guardi che noi non la vogliamo impiccare, vogliamo solo risposte. Per adesso non mi volete impiccare. No, non la vogliamo impiccare, però vogliamo la verità, nient'altro che la verità. Oddio, sembro un padre Amort. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Allora, sai com'era soprannominato Maruccio? Malato di videopoker, quell'ex assessore. Il consigliere delle TV arrestato, sei come? Il bombardiere. Il bombardiere, perché? Come tutti i giocatori incalliti. De Luca? Pronto? Eccoci qui, Di Pietro, scusi, Di Pietro, eccoci qui di nuovo. De Luca, Di Pietro. Allora, arriviamo a una conclusione di questa vicenda, signor Di Pietro. Lei è consigliere comunale del PDL Vigevano, l'ha fatta grossa, ha scritto Vendola è viscido quanto la vasellina che usa. Diciamola fino in fondo, cioè diciamola chiara, è inutile stare a tergiversare. Chiedo scusa, ho fatto una brutta battuta, mi è scappata la vasellina. Io l'ho già detto, l'ho scritto, l'avrà letto, non lo so. Sì, l'ho letto. Ho scritto che era una battuta, una semplice battuta. Ho capito, una battuta in cui il riferimento della vasellina era perché Vendola è gay. Lo deve dire, ma perché lo dice lei. Ma perché, scusi, ma allora perché utilizza la parola vasellina? Vasellina perché la vasellina è una cosa viscida, quindi lui mi sembra viscido e ho detto questo. Chissà perché la vasellina però. Ci sono tante altre cose viscide. Ci sono molte cose. Ci sono molte cose viscide, non c'è solo la vasellina. È evidente che la vasellina uno l'associa a quella cosa lì, nella sua mente malata e bacata. O no? Non lo so, lei come la usa? Io la uso. Saranno fatti miei, scusi. Ma se lei mi chiama, io posso fare una domanda a lei, io no, deve farle tutte lei le domande. No, ma lei può tranquillamente fare tutte. Sto parlando, lei mi fa una domanda. Ma sì, De Luca, lei può fare tutte le domande. Io la uso per la pelle, la vasellina. Io la uso per tante cose, la vasellina, guardi. La uso per tante cose. Io per la pelle. Sinceramente si usa per tante cose. La metto sotto le occhiaie, io. Io ho le occhiaie, però, la metto la vasellina sotto le occhiaie. Adesso non giriamo intorno. Molti siti dicono consigliere PDL omofobo contro Vendola. Secondo lei è un martirio, cioè lei viene impiccato per questa frase qui? Abbiamo capito tutti male? Ma nel senso, a me sembra una cosa nel senso, realmente strana che tutti mi contattano per questa cosa qua. Contattatemi per le cose veramente importanti che faccio, che porto avanti. No, adesso scusi, però con tutto il rispetto, va benissimo, noi la contattiamo anche per le cose importanti, ci sarà qualcun altro a livello... Per le barzellette, per le battute, ma... Nel senso, ma l'ha fatta lei la battuta, non è che l'ho fatta io. Ma perché mi dovete contattare su queste stupidate? Contattatemi per quando mi impegno sui casi sociali. Su questo non vi ho mai sentito, ma come mai? No, scusi un attimo, però là ci saranno i giornali locali di Vigevano o non so, della provincia di Pavia che si occuperà. Nel senso, dovete occuparvi di tutto, non sulle battute. Perché qua avete una visione distorta di una persona che si impegna da 10 anni in politica per... Ma questo persone. Nessuno dice nulla, non le stiamo dicendo. Nel senso, il brutto che pensate però voi, scusi Di Pietro, quando una persona fa una brutta battuta o scrive una cosa sgradevole, per lei è una battuta che può essere, per certi può essere simpatica, certi come lei può essere brutta. Ma secondo lei Vendola usa la vasellina? Ma non lo so se lo usa, io... Beh, l'ho scusi, detto, l'ha scritto lei? Quella era una battuta. Quella era una battuta che si presta all'equivoco. O no? L'equivoco per chi vuole prestarla è l'equivoco. Ma come a chi vuole? Se lei avesse detto come il, non so, come il consomè, nessuno si sarebbe stupito. Dice lei, Vendola è vicido come il consomè di la minestra. Quello della? Nessuno lo dice, no? Della? Ma non lo so, consomè. Qualsiasi cosa adesso. Il consomè, non ho capito quello che ha detto il signore. No, scusi Di Pietro, però abbia pazienza. Io adesso ma non ho capito quello che ha detto il signore. Sì, ma lasci perdere, era un paragone che ha fatto. Lei ha utilizzato la parola vasellina. Ora, non siamo, ripeto, per l'ennesima volta, non siamo dei bamba qui. Allora, cioè, non siamo dei pirla qui. Qui non siamo pirla. La pensi come vuole. Sì. Faccia lei. No, faccia lei, negativo, e lei. Negativo. Io glielo ho già detto, la mia. Punto. Lei può pensare positivo, può pensare negativo. Ma no, io penso negativo. Io penso che uno debba ammettere: ho fatto una battuta che si riferiva alla sessualità di Vendola. È una battuta sgradevole. Arrivederci e grazie. E tutto si chiuderebbe. Invece lei lì dice: no, io non mi riferivo alla sessualità di Vendola. Non mi riferivo a. Voi vi riferite a tutti gli omosessuali, ma io non stavo dicendo niente. Ma non tutti gli omosessuali, a Vendola, gli omosessuali. Secondo me è una persona viscida, non fa la politica in modo limpido e quindi per me è una persona viscida. Vabbè, d'accordo. Vabbè, fino a questo punto, fino a qua uno ci può arrivare. Qui, punto. Voi no, lei ha aggiunto una cosa, come la vasellina che usa. Scusi, abbia pazienza, però non mi prenda in giro. Ho scritto quello. Ma che ne sa che usa la vasellina? Ma l'ho detto. Perché l'ha detto? Perché lei pensa che essendo gay usi la vasellina per una certa cosa, su, Di Pietro. Sembra così. No, lei l'ha detto, perché? Mi deve fare il tribunale delle intenzioni. Ma non è il tribunale delle intenzioni, ma su, però... Ma scritto, lei fa più brutta figura così, mi dia retta, fa più brutta figura, perché nega l'evidenza, fa più brutta figura! Di Pietro, basta! Ma lei è pazzesco, non so chi è lei, però, simpatico. Ma non so neanche io chi è lei, per fortuna ne ignoravo l'esistenza fino a quando il signor Cruciani e il Corriere.it non mi hanno segnalato... No, tutti i giornali online ne parlano oggi. Sì, ma guardi, ma io, nel senso, io sarei, non sono contento che è girata questa battuta in tutti i giornali online, io sarei contento nel senso, quello che faccio io tutti i giorni per le persone che vivevano, ma perché non pubblicare? Ma scusi un attimo, cose? Ma noi che cosa diavolo oggi a noi, ma che cosa diavolo ce ne frega di quello che fa lei per la gente di Vigevano? Scusi, vede, ma no, ma glielo dico molto, sinceramente, fare cose ludiche, simpatiche, nel senso, ma glielo dico molto questo, sinceramente, lei sarà un bravissimo consigliere comunale a Vigevano, non lo so, lei sarà sicuramente un bravissimo consigliere comunale a Vigevano, non lo so se lei è bravissimo, probabilmente lo è, farà delle cose straordinarie e bellissime. Ma ciò non toglie che oggi ha scritto una cazzata, punto e basta. Ieri, oggi, quello che io l'ho detto, ho scritto una battuta. Una battuta è una cosa, una cazzata è un'altra. Scusi, una battuta. Quello sicuramente è una battuta. È una battuta in cui lei ha dimostrato. Può piacere, può non piacere. Per me potrebbe essere una cosa simpatica, va bene. Non è una cosa simpatica per lei, per molti altri. Molti altri mi hanno scritto. Andrea, hai fatto una battuta, fregatene. Quanta gente l'ha scritto? Hanno scritto molti. Tutti da... No, molte altre parolacce, cose del genere. Ma perché mi devono dare le parolacce che manco mi conoscono? Però perché? Scusi, perché lo sa... Ma lo... in un modo pazzesco, ma è nel senso... È una cosa normale essere offesi così? No, ma... Era una battuta, ma sono... lei sa... Di Pietro, mica sono d'accordo con quelli che la offendono, si figuri, cioè, ma assolutamente lei... no, il punto è un altro, il punto è che se lei usa accanto a Vendola la parola vasellina, dicendo perché che... Perché vasellina deve essere per forza associata a quello? Vabbè dai, Vendola, su, però per io non ce la faccio. No, per lei Vendola è associato solamente alla vasellina. Ma no, ma è lei che l'ha fatto questo accostamento, non io. Ma per lei No, per me no, per me no, io non ci penso. Allora perché è lei che ci pensa nella sua mente malata, io no. No, la sua è la mente malata, non la mia. Vabbè, perché ma perché scusi, però siamo tutti pazzi che abbiamo pensato a questa cosa. Come ci hanno pensato tutti a questo questa mente? Sì, solamente diciamo quali che pensavano, visto che sanno che Vendola è omosessuale, devono venire contro me che sono un ragazzo di destra e cioè, non di sinistra come Vendola. Cioè lo hanno attaccato, lei è stato attaccato dagli omosessuali? Credo di sì, molti hanno scritto sono omosessuali, non mi piace quello scritto. Ma guardi che non è che c'è bisogno di essere omosessuale. Non è che c'è bisogno di essere omosessuale per attaccarla su questa cosa qua, eh. Tanto guardi, a me dispiace. Vabbè, quello che hanno pensato io. Lei non vuole chiedere scusa per questa cosa, non vuole chiedere. No, se mi chiede Vendola, se mi chiedesse Di Pietro, lei mi ha offeso, io dico scusami, non volevo offenderti, però non mi piaci come persona a livello. Vabbè, ma quello è un altro discorso. A livello politico a lei non piace Vendola, mi sembra evidente, non c'era bisogno nemmeno di scriverlo, insomma, mi pare abbastanza evidente. No, perché Renzi è una brava, secondo me è una persona che si impegna e tutto. Cioè lei lo voterebbe Renzi? No, non riuscirei a aiutarlo. È del PD. Però le piace molto di più. Una brava persona. Senso una brava persona. Invece quell'altro è viscido. E vabbè, fin qui non ci mi puno. Piace, non mi piace. Non le piace. D'accordo, vuole chiedere scusa per questa cosa sulla vasellina? Ancora? No, non vuole chiedere scusa. Vabbè, no, ho capito. Perché è una battuta. È una battuta. Non volevo offendere nessuno. Non si riferiva ai gay. Va bene. No, Di Pietro, lei tiene il punto. Secondo me, si scava la fossa da solo. Che vuole che le dica? Qualcuno la obbligherà a dimettersi, non si preoccupi, nelle prossime ore. No, beh, dimettermi, chiunque me lo può chiedere, ma io non mi dimetto, assolutamente, perché mi sono impegnato. Vabbè, ma politica, a tutti ma capita, battuta, a tutti no, capita di inciampare, no. A tutti qualunque capita. Qualunque persona se lo può scordare delle mie dimissioni, perché io me lo sono guadagnato, ci ho messo di tempo, ma a forse. Vabbè, ma la politica è fatta anche di cazzate che si fanno e di dimissioni che ci sono. No, voglio dirle, sa quanto guadagno io per fare il consigliere ma comunale? Ma non c'entra niente questo. Io dico, 25 euro lordi ogni volta ma che questo va benissimo, va benissimo. Quindi io non guadagno niente, perché ho tantissime altre spese. Ma io non l'ho messo no, in discussione. Voglio dire, io non mi toglierò mai dalla politica per quel motivo lì, perché io mi impegno per i miei cittadini. Vabbè, ma comunque non si preoccupi, guarda, qualcuno lo ricorderà nelle prossime ore che lei non si vuole scusare, pensa di avere fatto una pensa di cavarsela dicendo che non si riferiva all'omosessuale di Vendola, ma va benissimo, perché sì. ognuno si può suicidare, se vuole si può suicidare, è libero di suicidarsi. Sì, ma guardi, io vabbè, non Di Pietro, va bene. Io le voglio ripetere, io non ci guadagno con la politica. Ma non c'entra niente questo, ma non c'entra. Se lei dicesse ho sbagliato. No, perché devo dirlo? Non sente. Vabbè, va benissimo. No. La ringrazio, buona serata. Vabbè, molto gentile. Lei. Va bene, siamo qui 800 24 00 24. Dovevamo scavare un po' nella vicenda Maruccio, il bombardiere. Signor bombardiere, non ce l'abbiamo fatta stasera. Aspetta che torno da Petreus, il comandante di questo di questo torpedone. Alberto dalla provincia di Como intanto. Il mio amico Petreus. Alberto? Vai a tavoletta 2.50. Ma come 2.50? Vai 2.50, via la cintura di sicurezza. Forza con l'appuntamento, forza. Pronto? Ma scorre il traffico adesso, scorre? Adesso com'è maestro la situazione? Scorre un po' di più, no? Quindi arrivo previsto perché ora 22.15 la facciamo? 22. 22. Figlio amico mio che ti frega, non gli fai male alla tavoletta. Pronto? Alberto dalla provincia di Como. Ma perché? Frusta i cavalli, autiere, frusta i cavalli. Alberto, dica. Ma chi è Alberto? Allora, io ho sentito De Luca. Onestamente, cioè, io lo definisco proprio un cretino. Adesso, in che senso, scusi? Che ha fatto proprio un discorso omofobo nel senso che proprio la considerazione della donna che ha fatto De Luca è proprio di uno squallido che non finisce più. Ma sulla moglie di Petreus, dice lei? Ebbene sì, proprio, adesso va bene tutto. Ho visto anch'io, sono andato anch'io a curiosare le immagini, eccetera, eccetera. Però da qui a dire che un uomo è solamente mosso da qualche cosa, non diciamo che cosa. Non ci faccio addormentare però, scusi. Alberto, lei dice non le sono piaciute quelle considerazioni sulla moglie di Petreus che ha fatto il sindaco di Salerno De Luca, giusto? Sì, non mi sono assolutamente piaciute. Sulla bruttezza della moglie di Petreus. Sì, che effettivamente non sia proprio... Un po' maschilista, dice lei, un po' maschilista, Molto maschilista, molto veramente maschilista. Direi che era un tantinello, dice lei, un tantinello. E proprio rappresenti quanto di peggiore ci possa essere nella considerazione dell'italiota proprio. Perché adesso va bene tutto. Sì, sì, ma ho capito perfettamente, Alberto, grazie. Giovanni da Treviso, buonasera. Giuseppe? Sì, buonasera. Giuseppe, mi senti? Sì, la sento, dica. Ciao. Buonasera. Senti, innanzitutto fate una domanda. Ma sì, ma dai, mi dia del lei, io le do del lei, mi dia del lei anche. Vabbè, vabbè, del lei, ok. Ma tu hai, scusi, lei ha iPad, iPad mini, come funzionano? Io la vedo in televisione, hai un sacco di queste cose qua. C'ho un sacco di roba, sono malato di queste cose. Qual è il problema? Vabbè. No, a proposito di vasellina, di questo, di quell'altro, cioè, quale persona migliore di Parenzo pensa possa spiegare a tutti quello che serve la vasellina? Penso che lui più di tutti lo possa sapere, immaginare, ma penso che lui... In che senso, scusi? Beh, ma insomma, si sa, no? Parenzo... Cosa si sa? Cosa si sa? Si sa, Parenzo, insomma, penso molte persone lo sappiano, è una... Che cos'è? Insomma, è di un'altra parrocchia, diciamo così, un po'... Quale parrocchia? Esistono le parrocchie? Lo chiedo a lui, io non voglio fare affermazioni. Ma Giovanni, come fa a dire, per carità, non è mica un'offesa, come fa a dire che Parenzo è un omosessuale, scusi? No, appunto, non è un'offesa, ma come fa a dire che è un omosessuale? L'ha conosciuto? Ma io ho sentito molte persone che hanno detto che, insomma... Ha sentito molte persone. Su queste cose poi è sempre difficile, no? Riuscire a capire dove sia la verità o no. Sì. Però, insomma... Parenzo mi sembra anche sia venuto fuori più di qualche volta, magari. Vabbè, diciamo che potrebbe dire, fosse anche così, allora? E poi la Zanzara è una trasmissione in mano alla lobby dei gay. Anche in mano alla lobby dei gay. Cioè, questo l'ha detto un signore che si chiama Roberto, non lo dico, dico solo come questo. Come si chiama questo ascoltatore? Giovanni da Treviso. Giovanni sì. da Treviso. Ah, Giovanni ma io da tanto che volevo dirla sta cosa, perché cioè voglio dire una Zanzara, una trasmissione più in mano alla lobby dei gay della Zanzara, io penso che in tutta la radiofonia italiana non esiste. Lo sa chi l'ha detta questa? Lei ha inaugurato, Giovanni da Treviso, complimenti, perché lei ha inaugurato la nuova rubrica della Zanzara che è Diamo voce all'idiota. Lei è il primo. Complimenti. Ma io infatti mi aspettavo un suo commento, caro Parenzo, su questo, perché no, so ma che è lei una nuova rubrica, diamo voce cose, all'idiota. Giustamente lei è stato il primo, perché guardi, essere un omosessuale oggi, io me ne rendo conto che per lei possa essere così un po' difficile. Ma guardi, non sarebbe un insulto per me, ma non è così, mi spiace renderla triste, eventualmente deve guardare da un'altra parte. Vabbè, io so queste cose, lo sanno in tanti, ma comunque vabbè. Non mi piace, fatene una ragione. Vabbè, io comunque a parte lo spazio dell'idiota è finito, perché è una telefonata al giorno, quindi lei è stato il primo oggi, domani c'è un altro idiota, se lei vuole può richiamare anche domani. Però ascolti, io in questa difficoltà io la capisco, perché non credo sia facile essere omosessuali oggi, credo che sia un... Ma non è neanche facile lavarsi i capelli dentro la tazza del cesso come fa lei quotidianamente, quindi... No, davvero, io la capisco, non voglio contrariarla in questo, rispetto il suo silenzio, se vuole. Certo. Io, e Cruciani, mi scusi, io volevo parlare di Maristel Polanco. No? Sì, però ha già detto troppo, abbiamo altri ascoltatori, Giovanni, la ringrazio. Giovanni da Perugia, buonasera. Ecco, salve Cruciani, salve Lorenzo, siete fantastici, vi ascolto sempre con molto piacere e molto interesse. Vada. E voglio distinguermi, sono Giovanni da Perugia, non Giovanni da Treviso, non voglio avere... No, per carità, ma è giusto. Con quel signore che ha fatto prima. Lei ha fatto una giusta osservazione. Oh, niente, volevo dire, vabbè, io sono un andrologo, quindi mi occupo di questi... Anche di... È andrologo lei, è andrologo. Sì, ovviamente... Ancora si considera oggi l'omosessualità un disturbo, nonostante noi ci sforziamo a far capire che è soltanto un orientamento sessuale. Va bene, però io volevo tranquillizzare lei e tutti quelli che giustamente si battono per far capire alcune cose, il fatto che le due regioni più oltranziste, Sicilia e Puglia, hanno eletto due presidenti omosessuali. Sì. Quindi per la maggior parte delle persone probabilmente non è un problema. Non è un problema, secondo me. E comunque fate bene a puntualizzarlo tutte le volte, anche perché insomma. Vabbè, ma guardi che questa volta noi non volevamo parlare di omosessuale gay, appunto, solo che c'è stato un signore che si chiama Di Pietro e non è Tonino Di Pietro. Totale. Ma questo lo dice lei, naturalmente. Ma la battuta è sicuramente da imbecilli, è la cosa che ha scritto, il quale si è riferito a Vendola parlando di vasellina. e facendo un paragone, vendola viscido come la vaselina che usa. Questo ha scritto, e poi nega quello che è evidente a tutti, cioè che il riferimento era all'omosessualità di Vendola. Però ci dobbiamo lasciare questa sera. Di Maruccio del Bombardiere, sì, Di Maruccio del Bombardiere. Caro Parenzo, ti lascio in mano al Petreus degli autobus. Io mi mancano 90 km posso, per arrivare a Roma. Ma non posso continuare, non posso fare quello che mi pare. Abbi pazienza, cioè non è ancora venuto questo momento. Verrà, forse, oppure verrà, andremo, finiremo nella polvere, chissà. A domani 18:30. Il giannetto dove lo metto non si sa, vabbè. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. La zanzara è una trasmissione in mano alla lobby dei gay. Radio 24. La passione si sente.